E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelle stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. No, no, strilla, strilla, lo so che sei sul torpedone, no, ma strilla, no, abbi il coraggio di urlare dentro il torpedone Roma-Siena, Siena-Roma. No, no, abbi il coraggio di urlare, perché David Parenzo si trova nel torpedone tra Siena e Roma. Urla a voce alta, ti voglio fare cacciare dal pullman. C'è una che mi ha visto prima, mi ha visto salire, sì, e mi ha fatto: ma lei sarà arrivato il solito coglione della radio? Ma dico, no, no, no, no. No, no, sì, devi dire no, sì. Parla italiano, parla italiano, italiano, no, parla italiano. Non ho capito, solo 2 euro, non ho capito, non ho capito. Ma tanto, tanto prima o poi ti cacciano da quel torpedone. Comunque ti dico solo questo: bellissimo oggi gli operai dell'Alcoa che hanno occupato il traghetto Tirrenia per 2 ore. Queste sono cose che mi mettono di buon umore, perché... Ah, sei a favore delle occupazioni dei traghetti, blocco del traffico, casini per le strade. Violenza, per carità di Dio, ma bloccare per 2 ore un traghetto è l'unico modo che queste persone hanno per far sentire la loro voce, perché per anni la politica li ha fanculati. Quindi hai detto la solita cosa, hai detto la solita, la zanzara non è affatto fatto con gli operai dell'Alcoa, hai fatto la solita tirata demagogica da Radio Popolare. Cruciani, un secondo però, aspetta che c'è già mi sono già arrabbiato. Passamela subito. No, ma non mi sono arrabbiato, ho chiesto semplicemente per lei proprio più piano. No, mi scusi, però il problema è questo, che Parenzo stasera deve urlare parecchio, dunque le dico già... Quindi ti stai esercitando. Le dico già in anteprima che purtroppo dovrà subire 2 ore e mezza di voci alte, di... insomma, cose di questo tipo. Se lei voleva dormire nel torpedone, mi sa che se lo può dimenticare. Mi perdoni molto, ma sa, insomma... Vabbè, abbiamo le nostre esigenze. L'abbraccio fortissimo, buon viaggio. Anche io, e se i piccioni spariscono. Hai capito? Renzi su Veltroni, limite ai mandati, vale anche per Veltroni, non solo per D'Alema. Sentiamo. È evidente che se vale il principio che noi stiamo cercando di affermare, cioè che dopo 3 mandati si va a casa, questo vale anche per Veltroni, non vale soltanto per D'Alema. Ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare. Rosy Bindi, conto meno dei quarantenni, sentite. Io nel mio partito conto molto meno dei quarantenni, perché io non no, faccio. Non dica, ma no, ma sì, ti assicuro. Non è vero. Io non faccio ma parte. Non è vero. Ma io leggo certe volte perché sui giornali. Le cose che succedono, non ci dica che lei conta meno di Orfini, non ci si crede. Ma io non faccio parte su questa ma io non parte su questa parte della pubblicità. Abbiate pazienza, io devo interrompere. Tutte le papere piangono. Siccome Bersani dice che ci vuole rispetto, lei dice: non voglio rispetto, quello è per gli anziani nelle case di riposo. Scusatemi, io penso che il rinnovamento generazionale in questo paese ci dà. Io non mi accontento del rispetto che diceva Bersani domenica, perché il rispetto si deve all'anziano che va in casa di riposo. Non andare finché il gallo. A proposito della vicenda Grillo-Favia, mi sono rotto le scatole di questi impicci interni al movimento di Grillo. Ma sono impicci interni inutili. Comandano Grillo e Casaleggio. Favia, quando se ne accorge? Quando se ne è accorto? A quanti anni di distanza? Finalmente i grillini dimostrano di essere molto migliori. Ma di che stai parlando? Ma non è vero. Del loro mangiafuoco. Cioè, stai fermo lì. Non partire con le analisi, non mi interessa. Aspetta un attimo. Favia, decideranno i cittadini sulle mie dimissioni? Ma chi decideranno cosa? Sei stato eletto per 5 anni. Ogni 6 mesi presenti le dimissioni a chi? Chi decide? Il network? I cittadini, ma di quali puttanate stai parlando? Va via, sentiamo. Io posso sicuramente, come dire, sono pronto a dimettermi e avrei anche qualcosa da recuperare come vita privata. Ma si dimetterebbe però in quale situazione? Lo decideranno i cittadini. Nessun altro mi può far dimettere. Se qualcuno vuole la testa è sul tavolo, nel senso che sono io a metterla. Ogni sei mesi, da quando sono entrato in regione, io e il mio collega Andrea De Franceschi rassegniamo le dimissioni provincia per provincia in assemblee pubbliche. Ma di chi sta parlando in assemblee pubbliche? Ma quali assemblee pubbliche, di cosa? Aspetta, ma scusa, ma c'è tempo? Abbiamo 2 ore e mezza, perché devi partire alla carica? C'è già un ospite che ci sta attendendo, un attimo. Ma tu stai tutta la puntata, sennò ti vengo a prendere con i forconi, non mi interessa. Il presidente della provincia di Napoli, Cesaro, voglio risentire assolutamente Gigino La Purpetta. Vi prego, voglio risentirlo perché mi mette di buon umore, mi fa caricare per la trasmissione. Urban Forum. E beh, qui abbiamo ospite una persona che conosce molto bene Gigino La Purpetta, lo conosce perché è amministratore locale anche lui, però ecco, non so se l'accostamento gli fa piacere, caro Parenzo. È uno dei sindaci più amati in Italia, lo diciamo subito, secondo le statistiche, un personaggio che a me sta molto simpatico, è sempre diventando lecchino anche tu, No, è un personaggio franco, no, poi picchierò duro come al solito, è un personaggio franco che dice le cose che pensa. Sì, questo è vero. Il sindaco di Salerno, Partito Democratico, Vincenzo De Luca, buonasera. Buonasera a voi tutti. Come sta, sindaco? Bene, bene, ti saluto. Senta, grande sindaco, grande. È come fosse un sindaco del nord al sud per me. Come fosse un sindaco della Svizzera trapiantato a Salerno. Questo è. Beh, un paragone che le piace, signor De Luca? Beh, diciamo che stiamo facendo un bel lavoro, via. Diamo anche un'immagine del sud che non è quella piagnona, moscia, inefficiente, ed è un'immagine dinamica. Questo. Senta, ma essere accostato come amministratore locale al signor Gigino La Purpetta, insomma, che cosa le provoca, ecco? No, ma niente di particolare, Gigino La Purpetta è un mito alle nostre parti, certo è in guerra permanente con la grammatica, però sì, la lingua italiana è complicata, lo sapete. Lei una volta però devo dire che nel tempo ho scoperto che ha perfino caratteristiche positive di umanità. Gigino. Addirittura? Cioè? Respira. Sì, sì. Una volta ha detto che era un oltraggio alla biologia, addirittura definire Cesaro un essere umano, cioè, ci è andato giù pesante, non so se era uno scherzo. Avevo detto che era uno sterminatore di congiuntivi, rimane, mantiene il suo carattere genetico. Ma cosa ha di buono? Che piglia un sacco di voti, quello d'accordo, non so se li piglia ancora, ma comunque insomma. No, devo dire, mi hanno detto che poi riesce ad avere anche forme di correttezza istituzionale nei confronti dei comuni della sua provincia. Beh, questo mi ha fatto piacere. Ovviamente il congiuntivo rimane lì in guerra con lui. Ma uno che ci va a fare alle cose dell'ONU se non sa parlare inglese? Uno magari dovrebbe usare qualche accortezza, non andarci, non presentarsi, fare parlare qualcun altro, no? O no? Poteva mandare controfigura. Senta, sindaco, ma andiamo alla domanda principe. Lei in questa disputa che insomma, come ha sentito negli ultimi giorni, si annuncia all'ultimo sangue, però non si sa se le primarie quanto conteranno, dipende molto dalla legge elettorale, ma lasciamo perdere queste cose. Lei con chi si schiera? Chi voterà personalmente? Renzi o Bersani? Guarda, il mio problema è capire chi la pensa come me, non se la penso io come gli altri. Devo dire sinceramente che dal punto di vista del rinnovamento, delle battaglie di rinnovamento, rivendico il copyright, diciamo, da 10 anni a questa parte. Cioè, devo trovare qualcuno che assomiglia a quello che dica quello che dico io, non che... Ma devo dire, guardi, che sta assumendo una piega che mi lascia molto perplesso. Francamente, se l'alternativa deve essere fra la palude burocratica e lo zecchino d'oro, mi pare che non andiamo molto. Cioè, la palude burocratica sarebbe Bersani, lo zecchino d'oro Renzi? La palude burocratica è un modo di essere del Partito Romano che è totalmente scollegato dai territori e dalla gente di carne ed ossa. E dall'altra parte, quando si esasperano i toni, mi pare che si assuma come unità di misura dei valori in campo l'anagrafe, e questo mi fa ridere, francamente, mi pare una stupidaggine. Anche perché lei ha 63 anni, per cui magari lo stesso Renzi la farebbe fuori, 4 mandati da sindaco. Per la verità credo di avere spalle abbastanza forti. Ma insomma, però tra i due sono le carte d'identità, sono gli attributi, per essere chiari. Scusi, tra i due, però lei una scelta la dovrà fare adesso, non sia così democristiano. Cioè, tra i due alla fine andrà a votare qualcuno, no? Le truppe di De Luca poi alla fine la seguiranno in questa sua scelta. Inevitabilmente lei ha un peso anche locale, per cui non si nasconda, sindaco. Quando andrà a votare, chi voterà? Bersani o Renzi? No, Vendola non lo prendo manco in considerazione, Ma si figuri se mi nascondo, avrete mie notizie, per beh, nulla che serve, insomma le avrete. Beh, no, ma lei ha un il peso locale. Il problema è che veramente mi sto annoiando, perché non ho capito assolutamente niente, non si sa se si fanno o non si fanno le primarie, stanno assumendo un carattere che mi pare francamente sgradevole per chi come me è impegnato in questo momento, in queste ore, con problemi drammatici, la cosa mi pare anche molto fastidiosa. Ma le piace il fatto che per esempio uno come Renzi, impegnato a amministrare una città, vada a fare le primarie? Credo che abbia il diritto di farlo. Lui non è debitore di nulla a nessuno, si è conquistato sul campo il suo ruolo, ha il diritto di fare quello che ritiene giusto. Però, insomma, per quello lei... che mi riguarda faccio fatica già a fare il sindaco. Lei preferisce, però, insomma, diciamo la verità, ha avuto anche un avvicinamento con Renzi, la presentazione del libro, eccetera. Tra i due preferisce Renzi, lo dica chiaramente, nonostante Becchino d'oro l'ha definito. Insomma, il meno peggio io tra i due, chi è? Credo che sia indispensabile un rinnovamento profondo del gruppo dirigente. Rinnovamento significa rapporto con il territorio, nessuna anima morta a Roma che non rappresenti nulla, significa un partito in grado di esprimere concretezza di governo. Vorrei un partito che su una cosa dicesse assumesse una posizione chiara. E tra i due chi è meglio? Per il resto non condivido questo provocare tensione continua. Mi pare che su questo stia esagerando Renzi, perché l'Italia ha bisogno anche di serenità. Però è vero anche De Luca che nelle primarie si combatte per vincere, si utilizzano anche i metodi della demagogia, del populismo, dell'attacco, altrimenti che primarie sono? Che sfida è? Cioè, la politica in America è fatta anche di queste cose e poi si sta tutti insieme. Mi stupisce, anche lei è abituato alla battaglia. Chi si accontenta di questo goda di questo tipo di primarie. A me mi fanno annoiare a morte. Comunque ancora non ha scelto, questa è la realtà. Stiamo solo aspettando di capire chi la pensa come me. Però più Renzi di Bersani, su. Sì, nonostante quelle ultime cose non le siano piaciute, insomma, alla fine la X su Renzi la metterà, su, o no? Sinceramente non ho capito niente. Non ha capito nulla delle primarie, è vero, se no, si faranno non si farà assolutamente niente. Io capisco che lei arde di passione per le primarie e non no, dorme la notte. No, a me mi fanno annoiare, sinceramente, per come si è messa la cosa la trovo noiosissima. Per fortuna di notte faccio altro. 18:46, traffico, andiamo avanti, torniamo col sindaco di Salerno, De Luca, che mi ha un po' deluso. Io pensavo che fosse, insomma, deciso, voto questo nonostante, invece niente. Io la combatto. Eccoci qua, 18:48, 800 24 00 24, la Zanzara inizia con un sindaco, uno dei più apprezzati nella sua città, con punte di popolarità altissime, addirittura uno dei più apprezzati in tutta Italia, caro Parenzo, il sindaco di Salerno, De Luca, molto critico nei confronti anche della classe dirigente del suo partito. Bersani a cosa assomiglia? Quale paragone farebbe De Luca nei confronti del segretario del suo partito? Insomma, chi? Gargamella. Ah, Gargamella, come mai? Mi pare evidente, no? Ma dal punto di vista, lei dice... Sicuramente, diciamo, non è George Clooney, come io non sono Brad Pitt, però mi pare che abbia una rassomiglianza incredibile con questo personaggio. Ma è cattivo. Beh, come... Renzi che è grande puffo, allora. Renzi? È grande puffo. Dal punto di vista estetico è questo, dal punto di vista politico si presenta un po' come un alpino, passo lento, dovrebbe accelerare un po', sinceramente. Ma chi dice lei? Bersani? Sì, sì. Bersani, ma senta, ma non ha un'immagine un po', chi è Parenzo, che naturalmente è caduto dalla linea come al solito, in questi ultimi giorni Renzi non le sembra un po' un Robespierre dei poveri, uno che voglia tagliare teste, eliminare tutta la classe dirigente? Va bene il rinnovamento, però, o no? Io credo che l'attuale segreteria abbia una responsabilità enorme per non aver reso percepibile un rinnovamento vero del partito, e anche per non aver assunto su due o tre questioni posizioni chiare. Io sono fra quelli che non hanno capito un accidente di niente sulle province, che pensa il PD. Sì. Credo che la posizione assunta sia disastrosamente equivoca. E sulle alleanze, l'alleanza definitiva con Bendola le piace? Se c'è un'intesa su un programma va bene, se Vendola raccoglie una sensibilità di sinistra, gente che soffre, qui avremo fra qualche settimana centinaia di migliaia di lavoratori che passano dalla cassa integrazione in mezzo alla strada, questo è un problema. Se qualcuno intercetta anche questa sofferenza sociale non è un male per la vita democratica. L'importante è che poi il tutto confluisca in un programma chiaro, niente ulivate e palle di quel tipo, perché bisogna governare in una situazione drammaticamente difficile. Beh, le ulivate di un tempo dove ci si divideva su tutto. Senta, lei che ha il quarto mandato, Grillo l'avrebbe già mandata a quel paese, naturalmente, no? E che Bersani l'ha definito un fascista, lei come lo definirebbe? No, non credo che lo abbia definito un fascista, ha detto che delle espressioni usate sono espressioni fasciste. Vabbè, più o meno. E io concordo sul fatto che la vita pubblica in questo paese si sta caricando di un tasso tale di aggressività e di volgarità che mi comincia francamente. Ma è un cafone, come lei definisce alcuni suoi concittadini che buttano la spazzatura, la famosa campagna Cafoni Zero, una specie di cafone anche Grillo? Lo metterebbe tra quei cafoni? Non mi pare un oxfordiano, d'altra parte avendo lo yacht può consentirsi anche di avere questi margini, come dire, di cadute di stile. Cioè in che senso lo yacht? Perché chi ha lo yacht? Non lo so, avevano yacht una volta, so che aveva una bella vita, non è un proletario, quindi ne faccia quello che vuole. Ma che vuol dire che... Ma voi non avete mai pensato a scendere in politica? No! Mi pare che no, mai. Si sia aperta la stagione del cabaret, diciamo, per la politica. Credo che avreste, siete i meglio piazzati, guardate. grazie. Questo è vero, però... Siete i meglio piazzati in questo facciamo momento. Facciamo la lista Zanzara. Altro che primarie e pippe varie. Facciamo la lista alla Zanzara. Senta, vabbè, però una bella definizione di Grillo, la vogliamo dare alla De Luca, una bellissima definizione, una specie di un cafone della politica, si può dire? No, non credo neanche questo, ma anche lì, guardi, per chi veramente deve fare i conti con i problemi reali, questi sono soltanto dei fastidi. Vede, questo è un paese disgraziato, infelice, destinato a finire male, ma veramente in un paese serio si può immaginare di governare questi problemi con queste palle? Appunto, cioè in un paese in mano a Grillo come sarebbe? Come? Un paese in mano a Grillo come sarebbe? Disastro. Si taglia le vene, che deve fare? Uno si taglia le vene, dice lei. E facciamo prima andare direttamente ai tedeschi. D'altra parte abbiamo una lunga tradizione, noi siamo una democrazia giovane, siamo vissuti per secoli nelle mani di uno, di un altro, francesi, tedeschi, spagnoli, abbiamo l'abitudine, quindi possiamo anche rimboccare questa strada. Chiamiamo i tedeschi e diamogli chiave in mano l'Italia, vediamo se riescono a risolvere. Senta, ma lei che è stato sempre molto critico nei confronti del PD campano, adesso non torniamo su alcune definizioni che ha dato, ma alla fine non è meglio sto caldoro del gruppo dirigente del PD campano? È una bella guerra fra il nulla e il nulla. Addirittura, il nulla e il nulla. E che è tutto un delirio, è tutto un disastro, uno scatafascio. Vince solo De Luca, c'è solo De Luca. No, ma per l'amor di Dio, qui si vive bene, c'è un clima splendido, spiagge piene, ristoranti pieni. Addirittura, pensavo adesso, si riferisse al la crisi, governo, la crisi a Salerno, al lavoro, alla politica. Da questo punto di vista mi dispiace, encefalogramma piatto. Ma scusi, ma che fine ha fatto Bassolino? Il signor Bassolino? Pare che voglia ritornare in politica, pare che si voglia riaffacciare di nuovo. Lei che dice? Questa notizia immagino che l'abbia sconvolta, caro De Luca. Ma non lo so, non seguo questi problemi, sinceramente. Non li seguivo prima, si figuri adesso. Cioè, non c'è fine al peggio, le dice. Senta, io avevo una parola d'ordine in campagna: cambiare tutto. Che bella parola d'ordine. Beh, pure lei, però, ha quattro mandati, non è che. Ma quattro mandati me li sono sudati con il sangue, mica mi hanno regalato niente, hanno cercato pure di uccidermi politicamente, ma li ho fregati. Ma li chi ho la fregati. Chi? Sinceramente è stata una grande il partito, cioè, Ingroia Travaglio è un partito secondo lei? Non ho capito. Ingroia Travaglio è un partito? Una sorta di partito in pectore? Ma lei sta riferendosi adesso alla stagione del cabaret che si è aperta? Pure quello è cabaret, dice lei? Dai, cabaret, cioè... Pensateci che siete i meglio piazzati, guarda, fateci un pensiero. Voi potete correre per la presidenza del Consiglio e un altro per la Repubblica. Vi garantisco che oggi siete i meglio piazzati. Però scusi un attimo, davvero Ingroia Travaglio tutta questa storia della trattativa, le cose, le 150.000 firme, il Presidente della Repubblica, tutto cabaret? Produzione di palle a mezzo di palle. Ma come? C'è gente mobilitata da tre mesi a parlare di questa roba, produzione di 150.000 firme, cose, battaglie. Sì, sindaco, su. Ma anche Vendola che vuole impalmare, mi scusi il termine, il suo fidanzato in terra italiana, è una roba che non le va bene. A me, se va bene a Vendola. Ma lei è favorevole? Lei è favorevole? Avrei modestamente altre opinioni, però no, ma quello, fa quello che vuole. No, dico, un bel matrimonio gay ci vuole pure in Italia, oppure no? Ma facciamo cose misurate, è un tema delicato questo, non mi va di affrontarlo con battute, rispetto la libertà di ognuno. C'è un tema vero che per me è risolto, diritti, vabbè, è quello delle adozioni da parte di coppie gay. Non si può, non si la, questo niente. Io ho un problema aperto di coscienza, detto con molta sincerità. Cioè no assoluto, no assoluto. Siamo qui, la Zanzara, sempre con David Parenzo, in collegamento col Torpedone, linea che va e viene. Altri sondaggi, fai un sondaggio sul governo Monti, sul Torpedone Siena-Roma, Parenzo. Fammi sentire la voce delle persone. Facciamo, si metto subito alla volta, perché c'è gente che dorme qui. Ma chi se ne frega, svegliala, svegliala, fai il giornalista, chiedi, fai un sondaggio. Scusi, posso chiederle, siamo in diretta alla Zanzara, voglio un grande sondaggio su Mario Monti, il governo tecnico. Lei è un grande sostenitore del governo tecnico. Io proprio di politica... Sì. Me ne intendo. Beh, ma gli piace Monti o no? Io non sostengo nessuno. Sì, sostiene Monti con entusiasmo. Ma non è vero, sta dormendo e dice che non gliene frega niente. Che dici? Però invece c'è il grande autista che è qui, che salutiamo. Ah, è al telefono però l'autista adesso. Ma come al telefono, scusa? Dice, no, con l'auricolare, cioè l'auricolare al telefono. Comunque sai, io volevo dirti questo, io mi sento molto Zavattini in quello e Soldati. Zavattini, in quel grande... ma sei un cretino, non Zavattini e Soldati. Zavattini in quel grande viaggio per l'Italia. Vabbè, perché il Torpedone è la metafora di un paese che vuole... Ma quale metafora? C'è uno che sta dormendo e che ti dice non rompere le scatole, non me ne frega niente di politica. No, questo è quello che... Sì, io voglio sentire la gente, voglio sentire la gente che ti dice sono a favore del governo Monti, sono contrario, un piccolo sondaggio all'interno di un Torpedone. Questo voglio sentire da te, se sei capace, altrimenti vai a quel paese. Sono Parenzo della Zanzara, posso mettermi vicino a lei un secondo, cara? Ah, l'ascolta, quel cretino di Cruciani che è in diretta vuole sapere, cara signora Francesca, giusto? No, mi chiamo Retta. Ecco, cara, perché si doveva chiamare Francesca? Cara Francesca è più semplice, cara signora Francesca, lei sostiene Monti, no? Io? Sì, ecco, sostiene Monti perché lui ritiene un grande primo ministro. No. Ecco. Lo ritengo un tecnico che è in grado di tirarci fuori da questo marasma in cui ci troviamo. Ecco. Ed è una delle persone che è andata in piazza a favore della riforma delle pensioni, lei, giusto? Ma perché non sono andata in piazza, non sono parzialmente d'accordo. Hai visto che domande dirette, domande molte, no? Hai visto? Domande. Vabbè, le domande di Parenzo. Aspetta, che ti voglio salutare un attimo, che devo salutare un secondo, signor Petra. Lei mi fa sempre compagnia quando viaggio in macchina. Grazie, buonasera signora, cara signora, buonasera. Lei insomma pensa che il governo Monti stia facendo bene, giusto? Diciamo che non starà facendo benissimo, però certo sta purtroppo quello che si doveva fare. Quello che si doveva fare, grandi sacrifici, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque... mescolati in un altro modo magari, ma insomma, i grandi sondaggi di Parenzo, i titoli del TG3, grazie. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti ai sindacati, la competitività ora è più importante dello spread, Camusso non dipende solo dai lavoratori, Bonanni disposti a discuterne. Siamo delusi ma non sconfitti, i lavoratori al CO dopo il nulla di fatto al vertice romano di ieri occupano il traghetto che li riporta in Sardegna. Evasione fiscale, Befera, non lasciateci soli, è una guerra di tutti, non vessiamo gli onesti. Quest'anno si punta a recuperare oltre 12 miliardi. Nessuna intesa sulla legge elettorale, si fa strada l'ipotesi di un voto a maggioranza su proporzionale preferenze senza l'accordo col PD. Depositati in Cassazione quesiti referendari per cancellare la riforma dell'articolo 18, tra i promotori Di Pietro e Vendola, critico il PD. Dopo l'esecuzione ieri sera in pieno centro a Milano di un giovane imprenditore e di sua moglie, poco fa nuova sparatoria, non ci sono feriti. Anniversario dell'attentato dell'11 settembre 2001, ora dice Obama siamo un paese più sicuro, abbiamo voltato pagina, il nemico si chiama disoccupazione. Eccoci qui, Grillo avrebbe detto aspetta un attimo, fermo Grillo, oddio, fermo un attimo, Grillo avrebbe detto un attimo che abbiamo ancora il sindaco di Salerno, un attimo solo, abbiamo, allora Grillo avrebbe detto a Favia erano disoccupati, ora hanno potere 3.000 euro al mese, gli piace troppo. Una volta Allora, Vincenzo De Luca ancora con noi, l'abbiamo strappato ancora per qualche istante. 800 24 00 24. Senta sindaco, io le volevo ancora chiedere una cosa. Ma che frequenza è qua in autostrada? Ma stai tranquillo, stai calmo. Al sindaco volevo chiedere, le piace l'idea di De Magistris di fare una sorta di i parchi dell'amore? Il sindaco di Napoli, lei gli farebbe i parchi dell'amore per le coppiette a Salerno? No. No, secco così, no. Cioè le pare una butade, una stupidaggine? No, ma d'altra parte a Napoli già c'era. C'era il parco dell'amore. Come il parco ma dell'amore? Si faceva senza tante cose formali. Si chiudeva con le macchine, con i giornali sui finestrini e si chiudeva. Bello il fatto. Beh, pure a Salerno ci sarà, no? No, Salerno no, Salerno. Siamo modesti artigiani, non siamo così fantasiosi. Siete morigerati, cioè non fate l'amore dentro le macchine, scusi. No, credo che ci sia una notevole attività anche da questo punto di vista, ma insomma appunto. È molto più ma sindaco, qual è ad esempio il posto più strano dove lei da ragazzino ha fatto l'amore? Questo sarebbe molto bello saperlo, eh? Perché è molto bello saperlo, scusa? Perché sarebbe una roba molto bella da sapere. Stavo parlando qui anche con l'autista, il grande autista del Pullman Siena a Roma. Sì. E proprio lui mi chiedeva, dice, chiedi al sindaco, perché lei il posto più strano dove ha fatto l'amore, qual è ad esempio? Vicino a Roma. Vicino a Roma, hai capito? Ma vicino a Roma che c'è? Può essere ovunque. Ma poi il sindaco non ti vuole rispondere, signor De Luca. Vicino al lago. Cioè, non è che adesso il sindaco va a rivelare, io ho fatto l'amore in un posto strano, perché magari l'ha fatto solo a casa sua direttamente, basta. Ma chi te l'ha detto? Cioè, oppure in un luogo appartato. Hai risposte per tutto, chi te l'ha detto? Vabbè, sindaco, risponda a Parenzo, lo mandi a quel paese, sono affari miei, dica così. No, io ho avuto la conferma che vi state preparando per candidarvi voi pure per le primarie. Io vorrei capire, lei la legalizzerebbe la prostituzione, sì o no? Non ho capito. Lei la prostituzione la legalizzerebbe, sindaco? No. No, Oh, niente no, legalizzazione della prostituzione. Credo che sia molto più utile pensare a cose complicate, ovviamente, come politica di recupero e reinsediamento, ma sinceramente no. No. Senta, ma questo partito dei sindaci che vuole fare, il partito Arancioni De Magistris, se le piace o le paga una stronzata? Il partito dei sindaci è una delle tante palle che ogni tanto si levano per i cieli d'Italia. Ma perché i due, cioè De Magistris, cambia il colore, poi può essere arancione, a pallini, a pua, quello che volete voi. Sono troppo egocentrici, ma sempre una palla, insomma, sempre una palla. Come la storia conosciuta negli anni 90, il partito dei sindaci. Sempre una come la città i quartieri dell'amore, le zone della prostituzione, una zona per appartarsi. Non mi ricordo come si chiamava quel quartiere di Napoli, cioè in salita lì si parcheggiava tranquillamente con le 500. Senza inventarsi niente cose particolari, non c'è bisogno di luoghi appartati definiti, insomma. Assolutamente, no? Senta, ma lei lo celebrerebbe un matrimonio gay al comune di Salerno? Se la legge lo prevede, lo faccio. Però non è appassionato, non è appassionato di questa cosa, del no, matrimonio. Sinceramente non le pare un'urgenza di questo paese. Per il tema in genere, il non tema, il tema di genere. Non è un'urgenza, non è un'urgenza, insomma, in questo paese. Se potessi parlare con Vendola gli suggerirei di rimanere così, bell'uccello di bosco, fringuello libero, ma chi te ci mette? Così bene. Sì, chi? L'uccello? No, uccello di bosco, amico uccello. Che hai capito? Su, sempre a capire cose strane. Vai, viene l'audio. Uccello di bosco, ha detto. Uccello di bosco, no, libero. Uccello, cioè, lei dice, no? Chi te lo fa fare di sposarti, no? Certo. Ma poi, secondo me, tra l'altro, moltissimi omosessuali non si vogliono sposare, o sbaglio, De Luca? Moltissimi? Omosessuali, manco gli eterosessuali ormai, Però moltissimi omosessuali non si vogliono sposare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, è vero che non si vogliono. È una tendenza che è molto forte, diciamo, ad avere un'organizzazione di vita anche meno formale. Diciamo. Un po' più libertina, diciamo, no? Non necessariamente più libertina, più fatta di responsabilità e di riconferma quotidiana degli affetti e dei sentimenti. Dunque, alla fine, che serve sto matrimonio? Perché uno si deve sposare per forza, no? Non c'è un'urgenza di. Questo direbbe a Vendola. Vabbè. Sì, ma chi ti ci mette? Questi chiari di luna. Sì, la convivenza, no? Stare insieme a una persona, tutti i problemi. Sì, ma d'altra parte si sta preparando le primarie, avrà per tante di quelle soddisfazioni, cioè, in che e tanti di quei godimenti che ne può fare a meno. Ne può fare a meno, dice, del matrimonio, dice. Vabbè, sindaco, la lasciamo. Va bene. Mi stia bene. Fatemi sapere se vi candidate a presidente del consiglio. No, quello no, però magari no. Qualche cosina una si può. Lista forse una facciamo. Listina si può fare, insomma. La fa pure Sgarbi, perché non la possiamo fare pure noi, sindaco. Abbia pazienza, no? Okay. Come? La fa pure Sgarbi la lista, il partito della rivoluzione, la fanno tutti ormai, tutti fanno liste, tutti. Ve l'ho detto, pensateci bene, è il momento del cabaret. Grazie, no, grazie. Voglio... Ma senta, ma io voglio capire una cosa, non ho capito bene questa cosa di Ingroia, ma però. Qua, però. Ma chi se ne frega della frequenza? Io voglio capire una cosa. A lei, quando parla Ingroia, le fa paura, le fa, si mette a ridere, pensa che sia uno che ci sta fregando, non dice le cose chiaramente, un pericolo. Appena parla Ingroia, perché parla tanto Ingroia, cosa le viene in mente? Che si dovrebbe riposare un poco, sinceramente. Qualcuno io sono fra quelli che credono nella sacralità della funzione giudiziaria, perfino esagerando. Ma questa funzione del giudice giudicante, sì, non di quello, sì, che del giudice giudicante, ma proprio perché c'è questo carico di potere, di sacralità, sì, bisogna avere equilibrio e terzietà. Non si può parlare come se si facesse politica quotidianamente. Non è compatibile con la funzione di magistrato. Dunque Ingroia non è compatibile, è evidente, no? Per quello che mi riguarda, no. Rispetto l'impegno, rispetto il sacrificio, ma non rispetto lo stile. Il magistrato deve offrire garanzia di terzietà a tutti, non deve apparire come... Tra l'altro qualcuno ha detto recentemente, ma se vanno tutti sti convegni a presentazione di libri, ma le indagini quando le fanno? Uno potrebbe anche avere questo sospetto, no? C'è anche questo aspetto. Uno va a presentazione di libri, trasmissioni, convegni, interviste, ma le indagini vere, no? Quando le fanno? Non lo so, questo è un po' come i sindaci che fanno i partiti, io non so quando lavorano, io non ho il tempo neanche per respirare, però evidentemente sono gente che ha un'organizzazione migliore della mia. De magistri, i magistrati, no? Dicono noi siamo liberi, come tutti i cittadini, di esprimere le opinioni, non è così. Perché siete gli unici cittadini che non sono giudicati da altre figure, ma si autoregolano. Allora, avendo una condizione speciale, avete anche dei doveri speciali. L'abbraccio, a presto, 19:28. Grazie, buon lavoro. 800-24-0024, Parenzo è caduto naturalmente. Fabrizio da Torino, buonasera. Pronto, buonasera. Grande annuncio, grazie, fra poco l'ennesimo show di Vittorio Sgarbi, questa mattina una trasmissione su, non mi ricordo che cosa, Vera TV, Vero TV, ennesimo show pazzesco, pazzesco, da manicomio direi. Fabrizio. Beh, ormai l'uomo è da rinchiudere. Fabrizio, dica. Posso parlare? Sì, vada. Sentendo le vostre trasmissioni. Sì. Quando avrai, se la banana non ce l'ha. Show di Sgarbi questa mattina contro Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto, a Vera TV, non mi ricordo adesso, ditemelo voi, via. Io vorrei che mi dicesse questo signore che conosco e che non dovrebbe essere qua, ma vuole essere qua lo stesso, che dica cosa io non ho, non è che tu sorrida con questo sorrisino, devi dire che cosa io non ho fatto come politico per avere una maschera. Quali sarebbero i danni che io ho fatto? Tu sai chi ha vincolato il Porto Vecchio di Trieste, chi ha recuperato il Petruzzelli, chi ha recuperato Piazza Armerina? Certo, vuoi parlare di io e non tu, capra ignorante, e bestia, falsario, questo sei, e vai pure a casa, invece di mentire, io l'ho fatto, parla di cose, no, tu non ce li hai quel sorrisino idiota, tu non ce l'hai. Tutto nasce dal fatto che Barbacetto dice che Sgarbi è in Parlamento da un sacco di anni, che fa parte della casta, che vuole riciclarsi, eccetera, eccetera. Ancora, faccia di merda, Sgarbi a Barbacetto. Parla di quello che ho fatto e non di quello che non ho fatto. In mancanza di argomenti. In mancanza della tua faccia di merda. Siamo alla recita. Quello sei tu. Me lo fai... No, nessuna recita. Tu non fai accuse senza sapere nulla. Chiaro o no? Io accuso chi mi pare. Tu accusi, no, tu accusi. Se ho ragione, sei come... se dico la verità. No, non dici la verità, tu dici solo delle bugie. Tu dici delle bugie e parli solo di morti. Perché ti servono i morti per far finta di essere vivo. Poi il solito repertorio, capra, vai a cagare, sei merda, mal cagata, cacatore. Sentiamo, sentiamone uno. D'altra parte non è la prima volta che prende lo stipendio senza lavorare, perché mai preso stipendio. Da parli di una cosa che non sai, ignorante. Non ha fatto nessuno stipendio, ero senza stipendio. Parli di cosa che non sai. Da professore è stato condannato perché non andava perché a lavorare. Non è vero, non ne avevo stipendio. Altra balla che racconti tu, il tuo giornale di merda. Merda come te. Quello sei tu. Un pezzo di merda. Mal cagato. Ma sai, quello sei tu. Chi vede merda secca. Scusa, merda secca. Scusa, la differenza tra chi urla e chi dice la verità. Ormai siamo al TSO, Parenzo, siamo al TSO ormai, Ma fagli una puntura immediatamente. Ormai siamo al TSO, diciamo, siamo al TSO. Ormai, Vero TV. Io sono preoccupatissimo perché ogni volta dove ovunque, vuoi sentire Giampi? Chi è Giampi? Beh, Giampi è l'autista, il nocchiero, ecco, il nocchiero del torpedone, lo sta portando verso Roma. Sorpassi un attimo con la destra, che tanto siamo della zanzara, possiamo anche te lo passo un attimo perché un editoriale da farti sul problema del sistema elettorale, cioè il passaggio dal sistema. Vabbè, non ti sento più, senti, non mi rompere le scatole. No? Dai, da del finocchio a Barbacetto, ancora sgarbi. Voglio fare una domanda a lei per dimostrare il livello di ipocrisia di questa gente. Ma che ipocrisia? Questo è scemo e basta. Fammi parlare, no, non mica tanto. Guarda come ride. Invece mi piace essere qui. Pensavo di no, invece mi sto divertendo. Se anche tu sei saggio, però forse ti diverti un po' meno. Va bene, siamo qui, vivi e vegeti. Arturo da Napoli, buonasera. Buonasera dottor Cusani, vorrei intervenire sull'intervento del sindaco di Salerno, De Luca, sulla prostituzione. Il sindaco di Salerno dice che non sono giusti i parchi per queste signorine, perché io non le chiamo neanche prostitute, purtroppo. Vabbè, allora? E allora le dico questo, le signorine guadagnano circa 2.000 euro al mese. Non sento nulla, Michele da Roma, la sento poco, Michele da Roma, mi sono scocciato di quelli che non si sentono, compreso Parenzo. Michele da Roma. Speriamo che si senta Michele, mi sente? Sì, la sento bene, vada. Perfetto, senta, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, sei ancora in linea. Io l'ascolto ogni volta che posso, anche se molto spesso non sono d'accordo con lei. Però, rispetto alla questione che lei ha detto su Favia, io premetto, faccio una premessa, non si iniziano così. Favia, guarda, non faccia troppe premesse, Favia. Uno dice faccio una premessa, già mi sono annoiato, su. Esatto, ha ragione, però io non voto 5 Stelle, non mi sta simpatico Grillo, ma non è importante. Come comico, esatto, e quello che ha detto Favia è corretto, loro ogni 6 mesi danno le cosiddette dimissioni. Posso dire che è una stronzata questa cosa qua? Può dirla, ma la deve circostanziare nel modo corretto, in termini di informazione. Poi lei fa le sue considerazioni. Ma che cosa vuole? Uno viene eletto per 5 che vuol dire che dopo 6 mesi presenta le dimissioni? Una volta che presenta le dimissioni, chi decide? Decidono le persone. Ma lei non può non essere d'accordo, come non sono d'accordo io. No, ma chi decide? Chi decide se vengono accettate o no? Le persone che aderiscono al Movimento 5 Stelle. Ma in che modo? In che modo? Che si incontrano come si faceva in una qualsiasi sede di partito seria. Ma non è vero, ma nessuno decideva in questo modo se uno deve rimanere o no al Consiglio regionale. Ma di che sta parlando? Ma perché avevano altre regole, loro si sono dati delle regole sulle quali io non so, ripeto, io non sono d'accordo. Grillo come politico gli do uno zero spaccato. Però lei mi deve fare un lavoro corretto. Ma prima quale lavoro corretto? Ma verso che cosa? Ma di che parliamo? Parliamo del nulla. Uno dopo 6 mesi si dimette, va dove? A un'assemblea pubblica. Come si vota? Per alzata di mano? Per voto segreto? Come si vota? Ma non lo so. Ma chi partecipa a questa assemblea pubblica? Ma quelli del movimento. Ma quelli del movimento? Sì, quelli che l'hanno votato. Che li conosce uno per uno? Li conosce uno per uno? Quelli che l'hanno votato? Perché così dovrebbe essere, lei dovrebbe ricordare quando abbiamo cambiato il nostro sistema di votazione. Michele, la cosa strana è che si sta parlando veramente di una cosa allucinante, cioè uno presenta ogni 6 mesi le dimissioni davanti a non si sa chi viene confermato o meno di fronte a non si sa chi, cioè questo è il punto, questa sarebbe la democrazia, capito? La presunta democrazia, ma di che parliamo? Ma scusami, quel movimento si è dato quelle regole interne. A sì, va benissimo. Ridere, cioè, non... Meglio quello del PDL che non fa mai un congresso. Ma solo che per stai dicendo? Dai, di su, maestro, non fare paragoni stupidi, dai. Ma no, io sai quanto detesti il signor Grillo. Ma guarda che secondo politica. Me, tra l'altro, nella diatriba tra Grillo e Favia, ha ragione Grillo, perché se immaginavo. Le regole... Se perché le regole... tu sei despota, perché no. tu sei o tirannos, sì, il tiranno. Ma Favia, scusa un attimo, ma se Favia si presenta di fronte agli elettori senza Grillo, sì. tua zia prende più voti. Tua zia prende più voti se Favia va davanti alla gente senza il cappello di Grillo. Tua zia e mia zia insieme prendono più voti. Non ho zie, ma lui sta facendo una battaglia di libertà. Ma che battaglia di libertà? Ma non dire stronzate. Yuri da Prato, Yuri da Prato, buonasera. Yuri Maria Prato. Signor Cruciani, io volevo telefonare perché a inizio trasmissione, quando Quarenzo inneggiava agli operai che avevano occupato il traghetto, sì. lei ha fatto un'affermazione e sono rimasto un po' allibito e volevo una spiegazione da lei. Lei praticamente ha detto che la Zanzara non appoggia gli operai al Ma la Zanzara non appoggia capire. Nessuno, non appoggia nessuno, non appoggia nessuno. Ma io voglio soltanto capire da lei se non appoggia il metodo di protesta che hanno gli operai o non appoggia in quanto gli operai... non possono scioperare. Senta, non possono a me le chiassate davanti ai traghetti, le chiassate per strada, le chiassate davanti al Parlamento non mi piacciono. In un mondo che è imperfetto, che è quello del capitalismo, che è quello del mercato, che è quello dell'Occidente, le aziende nascono e muoiono, possono morire naturalmente. Se uno è protesto, ho capito, ma a me mi danno fastidio le chiassate, tanto non si ottiene nulla. Non si ottiene nulla con le chiassate. Sì. abituare. Ma che vuol dire mi devi abituare? Ma da anni che è così, mi sono già abituato. Una ragione, vabbè, Yuri, che vuole ancora? Gente che perde il lavoro. Cosa può fare un lavoratore per difendere il lavoro in quanto tale? Ma non lo so, facessero quello che vogliono. Io. Facessero quello che vogliono, andassero con gli elmetti davanti a Palazzo Chigi a protestare, ma nessuno gli può dare una mano. Se una cosa è improduttiva, non si può salvare, punto e basta. Mi dispiace, ma non si può salvare. Ma, succede in tutto il mondo. Succede vabbè, in tutto so, il mondo. Succede in tutto il mondo, ma secondo me questa cosa non è normale. Non è normale, va bene. Allora lei vuole un mondo in cui le aziende non falliscono. Lei immagina. Un mondo in cui il lavoro sia è garantito. È garantito e va bene. Anch'io, tutti. Almeno uno Stato riesca sì. ad aiutare queste persone. Tutti vorrebbero un mondo dove non esista la Però, disoccupazione. Purtroppo non è così. E poi ho fatto un'altra domanda. Secondo lei Renzi non potrebbe lasciare il PD ed abbracciare il gruppo di Giannino, dato che mi sembra che l'idea di Renzi sia magari, vicino a magari, Giannino? Magari, ma secondo me Renzi potrebbe fare il leader del gruppo di Giannino e lasci fare la sinistra che non ci incassa nulla con lui. Bravo, mi pare una buonissima idea. Il problema è che il gruppo di Giannino non si è capito niente da un po' di tempo a questa parte. Con Montezemolo, forse sì, forse no, ci sarà qualcosa in comune a novembre. È dentro questo calderone del grande centro, boh, dipende dalla legge elettorale. Oscar che fa? Mi pare Oscar tentenne in questo periodo, detto con tutto l'affetto possibile e immaginabile. Andrea dalla provincia di Modena. Beh, Cruciani, vada. Io volevo parlare praticamente di Beppe Grillo che inneggia la democrazia, ma la democrazia non c'è mai stata dentro il movimento, perché Beppe Grillo è uno strumento in mano a Gian Roberto Casaleggio. Questa è una teoria, una delle tante teorie. Io credo che non sia in mano a nessuno. I due vanno d'amore e d'accordo, almeno fino a questo momento, guidano il movimento come vogliono loro col pugno di ferro e fanno benissimo, non bene, benissimo. Ma nel 2010 praticamente, durante le regionali, Favia fu praticamente proposto da Beppe Grillo come capolista Modena, Bologna e Reggio Emilia. Vabbè, allora? Praticamente lui scelse Modena mettendo come secondo consigliere De Franceschi con 300 preferenze, con un accordo fatto prima da Balestrazzi che poi dopo fu espulso. Ma a noi che ce ne frega di queste cose, scusi? Perché ce no, le stai raccontando? No, volevo dire che praticamente, cioè, visto che Beppe Grillo vorrebbe ripristinare le preferenze, durante le regionali del 2010 le preferenze furono ignorate perché una persona che arrivò seconda con 700 preferenze ne fu scelsero una che ne aveva solo 300 e passa, insomma mi sembra una cosa un po' incredibile perché i seggi erano due, Modena e Bologna, quindi sì, guardi Andrea, ci sono tante contraddizioni anche lì, insomma, come è normale che sia. Grazie. Fabrizio da Torino, buonasera. Buonasera, sentendo le sue trasmissioni? Sì. Certo, ecco che rimbomba. Vada, vada Fabrizio, vada diretto, vada, non rimbomba niente qui, la sento benissimo io. Allora, sentendo le sue trasmissioni, basta sentirne una. Sì. Le abbiamo sentite tutte. Parla sempre delle solite cose, senza proprio vergognarsi di quello che dice. Perché non fa, che ne so, un sondaggio su come stanno svolgendo le cose nel settore del trasporto merci? Ah beh, quello il sondaggio è un sondaggio interessantissimo. Le aziende che hanno fallito sì. e riaprono sempre con lo stesso nome, facendola in barba sia allo Stato nostro sì. che alle tasse che dovrebbero pagare, che Fabrizio, muovono miliardi e miliardi di euro questa gente qua. Non c'è dubbio, sono problemi... Con i imprenditori furbi che abbiamo, e questo sta succedendo a livello in tutti sì, i settori. Fabrizio, però adesso non ci attacchi il pippone su questo perché non la seguo. Allora, sono problemi molto interessanti, no, però potrebbe andare a discuterne per esempio a, a Focus Economia, detta anche da Parenzo con grande affetto e con grande amore, Forum Economia, oppure potrebbe parlarne alla trasmissione di Giannino. Qui c'è un altro tono, un altro ritmo, un altro modo di fare la radio. Le piace? Questo, sì, no, se no chiuda la radio e non ci rompa le scatole. Come la pensa lei, signor Luciano? Buona serata. Buona serata, che c'è? Ecco, a questo proposito, a 10 chilometri da Orvieto, no, sì, dalla mia Orvieto, chilometri, dalla mia dalla Orvieto. Tua Orvieto ti passo in esclusiva, però sì. ti prego, anche a questo punto c'è cioè, il nocchiero del Torpedone. Beh, passami sto nocchiero, avanti, su, passami sto nocchiero. Sì, pronto? Buonasera, lei è l'autista? Sì, mi sente? Sì, e lei è l'autista? La sento un po' male. Lei è l'autista del Torpedone? Sì, sì. È l'autista? Bene, sta parlando al telefono di Parenzo, stia attento con la strada, mi raccomando, signor autista. Sì, no, c'è problema. No, c'è no, problema. Stia con la, gli occhi ben puntati. Senta, signor autista, lei quante volte fa avanti e indietro Siena-Roma? Due corse al giorno. Due corse al giorno? Giorno due corse, due volte. Due corse, una rottura di scatole pazzesca, no? Beh. No, purtroppo ormai è diventato un lavoro abituale. E che bisogna fare? Per lavorare, per portare, no? Per portare a casa la bagnotta, bisogna fare questo. Senta, le piace il governo Monti? Ma governo Monti, finché io vedo un qualcosa che porta, diciamo... più migliore il tenore di vita. Sì, certo, finora mi sembra che ho visto poca roba, poco, sì, poco, poco. Ho visto più aumento di spese che altro, tutto qua. È tutto qua. Del resto come miglioramento non ho visto niente. E vabbè, grazie caro autista del Torpedone, mi ripassi Parenzo. 800 mi ha fatto molto piacere sentirlo. Grazie caro autista, stia attento alla strada, Sì, attenta alla strada, parla al telefono, vabbè, insomma, ne succedono di cotte di crude la zanzara. Parenzo, prosegui col sondaggio su governo Monti. Intanto ti presento un grande ospite perché è una persona, un deputato che è una sorta di veterano, una sorta di Matusa del Parlamento, così è stato soprannominato. Sai chi è il recordman di presenza in Parlamento, caro Parenzo? No, io però penso questo, adesso lo vediamo subito, sì. Penso che questo spaccato di storia che io ti ho fatto sentire, sì. sentire la gente sì, a contatto la gente, con storie sì. di persone, la gente con 3G, quelli che sì. lavorano, sì. questo è quello che noi dobbiamo fare, questo è il servizio pubblico. Ma te lo scordi, questo vabbè. È quello che mi ha chiesto anche Squinzi. Cioè ma non è vero, raccontare... non te l'ha chiesto, non ci ha mai parlato. Cioè... Sì. Mi ha chiesto di raccontare questo spaccato di Italia, abbandonare chi, abbandonare, fare solo di servizio. Ma non è vero! Mi racconta questo tipo di paese. Come io mi sento come Zavattini, adesso non vorrei. Ma quale Zavattini? Sei un imbecille, un cialtrone io mi del giornalismo. Come Cesare Zavattini. No, ma intanto c'è una notizia spettacolare su Sgarbi che è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. No. Perché domenica scorsa sarebbe rimasto in mutande con la patta aperta davanti ai clienti. Sto leggendo l'Ansa, tra cui donne e bambine, alcuni ciclisti in un agriturismo siciliano, e per questo poi qualcuno gli ha versato il caffè. Ma chiamiamolo addosso. Subito. No, che chiamiamo? Chiamiamolo agriturismo. Abbiamo con noi una persona molto seria, diciamo la verità, non è uno con cui si fa chi co, caro Parenzo. È un deputato che è in Parlamento, pensa un po', indovina da che anno, caro Parenzo? Prova a indovinare, dimmi un anno. Non lo so, dal 48 non è possibile. No, 48 no, ma dimmi un anno, che ne so, uno... Potrebbe essere dal 76, no, dall'80, dai. No, dal 76. Cioè, da quando sono nato io? Da quando sei nato tu? Beh, pensa a te. Da 36 anni? Da 36 anni, esattamente da quando sei nato tu. Ti posso rendi conto? No? Posso usare un'espressione... Sì, è in dico linea, solo... è in linea. Dico solo cazzo, solo questo. Come? Dici solo... Solo cazzo, punto esclamativo. Ah, da 36 questo. Anni, virgola, cazzo, così. Esatto, esatto. Va bene, il mitico ormai Mario Tassone, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come sta? Come sta, Tassone? Senta, male, bene. Senta, bene, avere addosso questa sorta di timbro, no? Come la persona che da più tempo, il simbolo un po' del, no, del Parlamento che non cambia. In realtà non è vero, perché è molto cambiato il Parlamento negli ultimi anni. C'è stato un grande ricambio, che se ne dica. Però lei, insomma, è da 36 anni, a parte una piccolissima parentesi, due anni tra il 94 e il 96. Ma insomma, come si sente? Veramente un veterano? Beh, gli anni ci sono di esperienza, praticamente, che sono, sì, sono consumati via via nel tempo. Cioè nel 76 ancora che c'era l'Unione Sovietica, caro Tassone. Nel 76 c'erano tante cose, c'era l'Unione Sovietica, c'era Parenzo, c'era la Democrazia Cristiana, c'erano i partiti, c'era il Partito Comunista, dirigente, c'erano ovviamente riferimenti che personali di personaggi che hanno fatto la storia di questo nostro paese. Giornale Radio. La Zanzara. Lei è nostalgico, Tassone, è nostalgico, diciamo. Lei è stato sottosegretario addirittura con Fanfani, ma insomma, di che stiamo parlando, Parenzo? Sottosegretario con Fanfani, sottosegretario con Craxi, anche con Berlusconi, ne ha passate di cotte e di crude. Beh, signor Tassone, dire, voglio cognarli, le cotte e le crude che ho passate perché ho vissuto gli anni cruciali. Io mi ricordo il 1978, l'uccisione della scorta di Aldo Moro, poi c'è stata la Lockheed, c'è stata la dimissione del Presidente della Repubblica. Ecco, però lei è ancora... stato quello un anno orribile, certo, e lei... c'era l'anno del terrorismo. Lei è ancora in Parlamento, ma detta proprio con franchezza, di fronte agli italiani che la stanno ascoltando, qualcuno ha fatto anche un calcolo di quanto lei avrebbe, signor Pedica dell'Italia dei Valori, fatto un calcolo di quanto lei avrebbe guadagnato da tutti questi anni in Parlamento. Quanto? Ma, non lo so, quanto ha guadagnato? Tutti questi anni questo qua i conti li sta facendo Pedica, cioè io ho guadagnato semplicemente quella dell'indennità, pur avendo ma quanto ha guadagnato in tutti questi anni? Non lo so, ma in tutto dal Parlamento quanto ci ha guadagnato lei? Cose legittime, mica rubate. 36 anni, facciamo il conto di 12.000 euro al mese, si faccia il conto, abbiamo anche il prodotto finale. Cioè, è diventato ricco col Parlamento, no? Non credo. Come no? Tassone? Proprio ricco no, guarda, veramente. Però, perché fare il parlamentare diventa ricchi quando si prendono, e quello che i conti che hanno fatto, sì, in questo modo, c'è gente che prende il tutto per in un anno, ma questo non fa, ovviamente non fa notizia, no, non fa scandalo, assolutamente. Però per lei ormai il Parlamento è un posto fisso per lei, il parlamentare, o no? In Calabria, che deve far tutto, deve curare il collegio, deve svolgere un impegno politico, a meno che non tesorizza tutto quello che gli danno, se li porta a casa. Cioè lei sta dicendo che non ha messo niente da parte, con la gente, ci sono altre, ci possono essere le entrate, ma facciamo il conto delle uscite. Se questo poi è ridotto, ecco il discorso del parlamentare, facciamo anche questo discorso. Ma io ho detto l'altro giorno che se noi facessimo un referendum, visto qual è il clima, ma credo che non faccia onore al paese, se è giusto mantenere il Parlamento o no, ci sarebbe un referendum che avrebbe come risultato quello di eliminare il Parlamento e la cancellazione del Parlamento. Poi il problema della democrazia, della partecipazione, del coinvolgimento. Scusi Tassone, ma lei che dal 76 in Parlamento, non sarebbe il caso di chiudere qui, insomma, dopo 36 anni, mi dica la verità. Lei che cosa dice? Io seguo anche il suo consiglio, visto che lei così ovviamente è portato a recepire e a raccogliere la gente. Lei che cosa dice? No, ma io che ne so, non lo so. Io... Ma siccome lei mi fa una domanda e dovrebbe avere una mia risposta, potrei dire di sì o potrei dire di no. Io non lo vorrei sconfortare, non vorrei. Ma no, ma si figuri. Lei è una persona così simpatica. Lei che cosa dice? Ma guardi, io, che per me non è un problema. Lei può fare quello che vuole. No, per carità di Dio. Guarda, io ho portato avanti una posizione coerentemente, perché sono stato nella sempre DC corso, sempre portato, e mi rimetto a quello che fa il partito e potrei chiudere adesso. Però ecco, siccome lei ovviamente fa questa domanda, è portato ad avere anche una risposta, considerate che lei fa il giornalista, io sono pure giornalista, con molta onorevole. Tranquillità, ecco, che cosa dice lei? Ma che ne so, fossi lei la chiuderei qui, però... Ecco, perfetto, lei mi dà un consiglio, questo qua lo teniamo anche... No, ma presente. Lei cosa vuole fare? Più interessante il mio consiglio è quello che vuole fare lei, cioè vuole... No, ma io non è che non è un problema personale, no, guarda, forse a lei gli sfugge, in molta tranquillità, lei è un giornalista molto bravo, però non c'è dubbio che deve tenere presente sì. anche l'audience, fra le altre cose, lei deve sapere... Ma che vuol dire? Che al di là delle persone o della volontà sì. personale ci sono delle valutazioni del partito. Se il partito complessivamente sì. con esigenze di carattere generale richiede di carattere di generale sì. le esperienze, si chiudono tranquillamente le esperienze. Anche l'altra volta volevo chiudere, per cui non è un cioè il partito di... che me lo chiede, dice lei. Se non il partito me lo chiede, non è il partito che lo chiede, ci sono circostanze e ma che vuol dire circostanze che... non è che è lo Spirito Santo, Sassone, scusi un attimo, uno decide se candidarsi, se se la sente a fare un'altra legislatura dopo 36 ma anni oppure no. Forse penso non ho mai inteso, amico mio. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco come una muchachita. Beh, vogliamo perderci Formigoni? Formigoni oggi, questa mattina, da Chiambretti, dal tuo amico Chiambretti, Parenzo, eh? Cosa dal tuo detto? Amico Chiambretti, che ha detto che lei si fa dare le ricevute per un prestito da un amico, sempre con riferimento alla vicenda d'Accò. Sentite. Lei quando riceve un prestito da un amico... si fa dare la ricevuta no. quando glielo restituisce? No. Mi sono stati anticipati dei pagamenti di biglietti aereo, qualche migliaia di euro, che io ho restituito ad un amico evidentemente senza farmi rilasciare le ricevute. Scontro buon anno Bindi alla Camera. Capisco perché adesso stanno tutti zitti su questo argomento e anche nella discussione, anche se lei dà fastidio, signor Presidente, perché la vedo abbastanza scocciata, ma sinceramente, sa, ognuno è libero di dire quello che pensa, io quindi dico la mia. Guardi, buon anno, mi ero distratta, quindi non ero scocciata per lei, stia tranquillo. Ok, il fatto che era distratto non va però a suo beneficio, perché un Presidente vero. Non si deve distrarre. È vero, formalmente ha ragione, ma nel merito la volevo tranquillizzare. Bene, quando farò io il Vicepresidente della Camera sarò anch'io così gentile con lei, se mi capiterà l'occasione, sempre che Renzi non la mandi a casa, sempre che Renzi non la mandi a casa. Ancora Bindi, buon anno. Dicevo, quindi, per il stabilimento siderurgico... Che tenga il tema, onorevole Bonanni. Come? Tenga il tema. Eh beh, certo, ci mancherebbe altro. Ho parlato di Casale Monferrato, non si è sconvolta per niente. Ho parlato dei disastri che fate prendendo i soldi dalle... Parliamo di Taranto, onorevole Bonanni. Su Renzi mi sembra che avete un po' di... Parliamo di Taranto. Anche questo succede alla Camera, 800 24 00 24. Ci sei, Parenzo? Ci sei ma o no? Ma certo, ma ho sentito quella una roba patetica, questa dell'onorevole Bonanno, cosa non si fa per guadagnarsi 5 minuti di celebrità, dai. Vabbè, ma uno alla Camera si succedono tante come cose, si chiama dai. Dopo il deputato che abbiamo noi adesso in collegamento? Beh, il deputato è uno che è stato sottosegretario con Craxi, con... Sì, lo con... so. Mario Tassone, da 36 anni in Parlamento, Tassone, è stato DC, che... CCD, poi no, sì, scusa, DC, PP, ma perché devi prendere in giro così? Ma non prendo in giro, non mi ricordo, allora, dal 1976 io sì, sono dal 76, Tassone. Sei nato tu nel 76, che cosa vuoi dire? Anche tu vuoi dare un consiglio di non candidarsi più? No, è tutt'altro, io sono nato il 14 novembre del 76, quindi sono 36 anni che io sono al mondo e lui in Parlamento, due danni in una volta sola probabilmente. Perché due danni? Però, anche la mia nascita. Beh, pensa a te stesso, non pensare a... Però dico a Tassone, resisti, rimani ancora. Ho anche uno slogan che gratis ti regalo, le regalo per la campagna elettorale. Sì. Vota Tassone, virgola, non fare il... Ecco, bellissimo. Beh, non credo che il signor Tassone lo utilizzerà, onorevole Tassone. E invece spiazzerebbe l'elettorato cattolico. Vota Tassone, virgola, non fare il... Se, ci, il furbone, se ci saranno le preferenze, dice. Se ci saranno, io questo è il manifesto che consiglio e lo vorrei vedere in ogni città. E se ci fosse questo manifesto, io sarei il primo ad attaccarlo. Vota Tassone, virgola, non fare... Sarei il primo ad attaccare i manifesti e te lo giuro, Cruciani. Io voglio un manifesto così, glielo attacco io, te lo giuro. Allora, onorevole Tassone, qualcuno del partito le ha chiesto già di rimanere, che lei sarà ricandidato, ci illumini su questa cosa. Ma perché? Non è un problema, voi state facendo una trasmissione che... tranquillamente, lei mi ha dato un consiglio, ha accettato il consiglio, vediamo un pochettino, le sto dicendo, lei era partito col discorso del Parlamento della Prima Repubblica, credevo che fosse un discorso un po' con un tono, ma io capisco quali sono le esigenze ovviamente del momento e anche di questa trasmissione, di questa RAI. Perfetto, io ho accettato il suo, io raccolgo il suo consiglio come raccolgo consiglieri inversi, poi ovviamente siccome c'è la libertà certo, ma le piacerebbe rimanere, le piacerebbe rimanere. Poi volevo sapere, noi ci di tutte quelle se battute, io sono stato sempre democratico. Ma quello è Parenzo. Forse è stato PP, no, io gli dico a lei, ovviamente il suo DC, PP, CDU e UDC, giusto. E fa anche educazione, perché credo che una trasmissione come questa dovrebbe fare informazione corretta. Allora sono stato democratico cristiano, PP, e poi ho fatto il CDU e poi ci siamo ritirati con i CCC. Ah, infatti. Ecco, e perciò è nato un'unione del centro. Senta, ma per lei è stato sempre, è rimasto sempre lo scudo crociato. Nella mia storia non ho mai cambiato nulla. Ma chi ha detto qualcosa? No, le sto dicendo, la sto invitando a fare una corretta informazione anche con il suo interlocutore, a dire che non c'è PPP, CCC, c'è stato la Democrazia Cristiana, il PPP e l'UDC, ovviamente il CDU e l'UDC sempre democristiano, sempre lo scudo crociato. Senta, ma per lei questa è la coerenza, quantomeno con tutti i mali che ci sono, quantomeno io sono stato sempre democristiano. La mia storia, ovviamente, la mia storia e la mia coerenza. Non c'è dubbio. Sarà un male, sarà un coso. No, ma chi l'ha detto? Anche come testimonianza. Scusi, onorevole Tassone. Questo qua, ovviamente, le dico subito che non ci muore nessuno su questo tipo di discorso. No, però scusi. Serve, va bene, se non serve, ho capito, ma qualcuno deciderà, no, lei deciderà, non mi voglio più candidare, basta, dopo 36 anni non ho ancora deciso. Perfetto, io, lei me l'ha detto, me lo sta sollecitando, ma non è che altre cose, prendo atto di questa sua sollecitazione. Ma non è troppo 36 anni, uno dice si stanca di vedere ma io sto prendendo atto di questa sua sollecitazione. Ma non è una sollecitazione, è una domanda, io faccio il giornalista. Io faccio anche il giornalista, che cosa vuole, ma dove che lo fa il giornalista? Faccio anche il giornalista, perché il giornalista non è una prerogativa sua, no, ovviamente. Per carità, per carità di Dio. Allora, e lei ha fatto la domanda, io ci penserò e vediamo un pochettino rispetto alle condizioni politiche che forse fuoriescono un po' dall'immaginario comune. Sì. Ci sono tanti vari problemi. Scusi. Se dovessi finire, se qualcuno, se io dovessi decidere di finirla, finisco ovviamente e non ci sarà nessun trauma. Ma questo non c'è dubbio. Se uno non serve, con l'esperienza, non serve esperienza. Ma chi? E ci sono altre sue esperienze da rivalutare. Ma serve ancora la sua esperienza, secondo lei? Serve? Non lo so, ecco, questo qua. Ma come non lo so? Non lo può fare mai interessato. Vado pazzo. La domanda, gliela sto dicendo, se lei vuole una domanda, una risposta confezionata da quello che mi dice lei, non gliela posso dire. No, perché io mi aspetto un sì o un no. Un sì o un no. E siccome siamo una comunità di persone, se insieme si decide, perché quando uno è portatore di valore di progetto, i valori del progetto non li porta soltanto una persona, è una comunità di persone, se siamo in un partito, Parenzo. Se tutti quanti siamo convinti, o qualcuno è convinto, che l'esperienza può essere fatta da altri, io sono ovviamente convinto. Però a lei le dispiacerebbe, mi dica la verità, le dispiacerebbe uscire dal Parlamento dopo 36 anni? Uno si è abituato. Ma noi che si è abituato, può fare, uno fa altre cose. Se e che fa lei? Ai suoi colleghi giornalisti che stanno da 50 anni, direttori di giornali, 60 anni. Ma che vuol dire quello, amica? Allora uno dice, uno dispiace sempre lasciare un'esperienza. Appunto. Se dopo, fra 50 anni, che io gli auguro ovviamente grande successo di diventare direttore di una grande testata, ovviamente, di una grande testata, dopo 40 anni dice, dovrò cambiare metodo di vita, ma questo qua è un fatto umano, un fatto naturale. Siamo tutti uomini, che lei sta parlando con un uomo, ovviamente. Però tutto questo. Scusi, non Tassone, io volevo semplicemente capire. Il posto di proprietà personale. Ma per lei è un posto fisso, praticamente dopo 36 anni può essere considerato un posto fisso o no? Ma lei lo considero come vuole, se lei pensa che il mandato parlamentare è posto fisso, vuol dire che certamente lei le regole, ovviamente, no, della rappresentanza. Ma io le conosco, ma dopo 36 anni la rappresentanza istituzionale è una sua concezione di carattere personale. È perfetto. Va bene, Tassone, però chiudiamo questo discorso. Ma lei che cosa vuole sapere da me? Non lo so. No. Se lei mi avete chiamato per sapere, io sono disponibile ad andare via. Se lei questa la può soddisfare così tranquillamente, ma non è soddisfatto, dorma tranquillamente. Ma no, ma io guardi, dormo lo stesso. La sua trasmissione. ragione, ma io le sto dicendo questo, per carità, io le ho detto, io ho un patrimonio di esperienze, di idee, ma c'era il signore anche adesso, in questo momento non succede niente, no, e tranquillamente metto a disposizione. Ma perché se l'è presa così tanto? Non è un problema, nel 76, quando lei entrò in Parlamento, c'era Ingrao, presidente della Camera, il signor Ingrao. Assolutamente, è che lei ha impostato la cosa, che prendeva una piega in un certo modo. Se lei vuole la risposta, sì, me ne vado tranquillamente, se questa la posso disfare tranquillamente. No, così, lei è soddisfatto. Ma io non sono soddisfatto, anche se lei mi diceva non me ne vado, sarei stato impalmata bene, ma sarei stato soddisfatto lo stesso. Tassone, io se lei mi avesse detto no, voglio rimanere, io sarei stato soddisfatto lo stesso. No, ma lei, siccome io non gli posso dire di no, perché io tutto questo grande volontà di rimanere per forza non ce l'ho, per cui perché devo dargli una risposta da lei confezionata? Lei non può pensare che siamo a bottone, cioè, l'impegno ma politico, no, a bottone. Non è un posto fisso, capito? Beh, tutto. Per lei l'ho diventato, però dopo 36 anni. Che quello è a me commesso, evidentemente. Scusi, Montezemolo, allora cambiamo discorso. Montezemolo ha detto che l'altro giorno c'era pure. Lei credo che abbia fatto la trasmissione non per parlare né di Montezemolo né di altre cose, poi ha fatto questo discorso per parlare ovviamente della mia permanenza in Parlamento. Perciò l'ho soddisfatto, ho già dato la Va bene, posto. D'accordo. Allora io però le voglio chiedere ancora, Montezemolo vi considera tutti dei vecchi arnesi, per carità, magari ha torto lui, l'altro giorno ha detto. Montezemolo ha fatto un'uscita nei confronti di Cassini in generale. Della classe dirigente che c'era lì. Perché in questo paese bisogna capire chi ha realmente comandato. Certamente Montezemolo è stato uno spettatore in termini reali, come potere forte in termini reali. E poi ovviamente. Cioè non è stato uno spettatore? Non è stato uno spettatore nella vita del posto. Cioè ha comandato anche lui, dice lei, no? Ma non so. È un vecchio arnese pure lui. Ci sono vari poteri che contano molto più della rappresentanza istituzionale. Io ritengo che questo discorso forse lo riprendiamo se imposta direttamente anche la sua trasmissione. Ma insomma, ma non è che lei mi può dire quello che devo fare o quello che non devo fare. Scusi, onorevole Tassone, è pure curiosa questa cosa, no? Cioè... Ma è curiosa lei, ma lei mi ha detto quello che devo fare io. Ma no, ma io volevo. E mi direbbe qualche amico autorevole. Vabbè, mi consenta. Tassone, ma scusi, Parenzo, dimmi. No, non capisco perché Tassone ha ingaggiato questo fortissimo corpo a corpo sulla questione della ricandidatura usando il vecchio. Ma apparente, che sta tranquillo che me ne vado, se questo è un problema. Ma non è questo. Perciò lei non deve... può fare. Ma lei deve ha... Ma se lei resta è meglio, noi ci divertiamo lei come deve... matti. Esatto, lei mi sto divertendo, ma lo sollevo anche dall'incombenza di fare lo slogan o di fare la battuta di spiega. Ma dai, ma però dai, scherzi con noi. Ma bello mio, ma non è che qui siamo a giocare con Ma no, io sto dicendo mio. La mia, ovviamente. Scusi, ma lei vabbè, allora chiudiamo il problema che del cruccio di parente che si trascina per farlo dormire tranquillo. Se questo qua è un problema, ci sono le condizioni, certamente me ne vado. Bene. Per cui sollevo ci anche sono le condizioni, delle spese di fare la campagna elettorale. Le meningie per trovare degli slogan opportuni. Questo è qua credo che sia il discorso. Senta una cosa, questo è un atto di umanità, di generosità nei confronti di Parenzo, di uno certo. spettatore che è molto simpatico, perché lo vedo agguerrito, però che non conosco, che avrò anche il piacere di conoscere. Tassone, scusi un attimo una cosa, vi posso chiedere una cosa? Lei che è un vecchio democristiano, si allerebbe uno con uno come Bendola che dice che vuole fare il matrimonio nella sua terra, cioè l'Italia, che si vuole sposare? E su questo abbiamo dei problemi, l'abbiamo già detto. Ma lei col matrimonio, cioè vuol dire, se vede due gay che si baciano per strada, la sua reazione qual è? La mia reazione non è positiva, questo è ovvio, ma non è per essere vecchio democratico cristiano. No. Cioè che vede, si volta dall'altra parte, le fa un po' schifo, due uomini che si baciano per strada le fanno un po' schifo. Non è un fatto naturale, è un fatto a mio avviso, anche se uno deve rispettare tutti, perché bisogna rispettare tutti. Però è un po' contro natura, no? Bisogna rispettare i diritti di tutti, però per la formazione che noi abbiamo avuto qualche senso lo dà. Ecco, questo, cioè le fa un po' senso, fatto. No? Le fa un po' senso. Questo è il fatto, però bisogna rispettare tutti, bisogna rispettare le situazioni che ci sono. Ma è contro natura, è una cosa, vedere due uomini che si baciano è un po' contro natura, no? Vedere due uomini che si baciano non è un fatto naturale, non è un fatto costituzionario, ecco questo qua. Non è molto naturale, cioè le fa un po', come si può dire, che cosa le provoca? Un senso di orrore, un senso di orrore proprio, schifo. Io gli ho detto, certamente non è un fatto naturale, ma non dell'errore, ma bisogna avere anche rispetto nei confronti di tutti. Però ci sono due momenti che sarebbe meglio farlo dentro casa, non all'aperto, no? Beh, io ma anche se vedo anche una donna e un maschio che si baciano, ecco, profondamente, diciamo, profondamente, con grande trasporto, e non credo che sia un fatto naturale. Allora le cose sono bene che sia maschio sia donna le facciano a casa. E viva l'alleanza col Partito Democratico, allora, no? Da questo punto di vista. Ne vogliono fare le unioni, chi matrimonio, chi le unioni, cioè, su questo non siete d'accordo. Il Partito Democratico. Comunque, guardi, abbiamo detto alcune cose. Cioè, ma è incivile, guarda, scusi un attimo, Tassone, però è incivile il matrimonio gay, una cosa incivile. L'ha detto pure Casini, dunque lei. Ma il matrimonio gay, che nessuno pensa al matrimonio gay. È incivile, è una cosa incivile. Noi abbiamo detto di no. Ma è incivile? Com'è? È una cosa incivile, una cosa. Un fatto che è fuori dalla Costituzione, è fuori dal diritto naturale per quanto ci rivolga, è fuori da quello che sono i postulati, ovviamente, della. Ma scusi, della, ma non sono anche un po' gli omosessuali, non sono anche un po' malati, mi dica la verità, cioè un po' da curare. È un fenomeno che esiste nelle cose, questo qua. Poi se questo sono, se lei le vuole confinare nell'area delle patologie, io non lo so, è una domanda, è una realtà che è una realtà che esiste, e se è una realtà che esiste bisogna prendere atto di questo, che esiste. Ecco perché noi a matrimonio, ma sia la tutela dei diritti, sì, certo. Delle conosce di fatto, questo credo che sia un po' il senso del ragionamento mio che faccio. Però insomma il bacio in pubblico no, vabbè, ho capito. Ma io no, le stavo dicendo che ho capito benissimo. Anche fra due di sesso diverso, profondamente, se lei vede gente che si bacia, ma non è una bacio cosa. Fa altre cose, non credo che non dia, cioè, lei non andrebbe al matrimonio di Vendola? Al matrimonio di Vendola ci andrebbe o no? Di reazione o qualche, scusi, da sole, al matrimonio di Vendola ci andrebbe lei? Al matrimonio di Vendola? No, non credo che mi inviterà Nicky. Però a questi tipi di matrimoni posso dire che non sono abituato. Questo posso dirlo con certezza, con molta sicurezza. La ringrazio, a presto, a presto. Lavoro, pubblicità, pubblicità. Ci rivediamo in Parlamento nel 2013, Tassone. Il Parlamento, io non la conosco, se lei si avvicina mi farebbe molto piacere, sì. E però avrei il piacere anche di conoscere questo Parenzo, signor Parenzo, veramente. Signor Parenzo, va bene, d'accordo. Tante cose. Le zanzare di casa. Bene, Renzi ha un nuovo simbolo, un nuovo slogan, adesso, che in realtà era lo slogan della campagna elettorale di Franceschini per le primarie. Comunque, Renzi adesso. Tutto sembra poesia, la cruda verità. Sgarbi denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Era in mutande con la patta di fuori, in un agriturismo, con la patta slacciata in un agriturismo. Nel locale i clienti avrebbero inveito contro il critico d'arte invitandolo a rivestirsi. Denunciato per atti osceni. Francesca da Varese, buonasera, adesso chiamiamo l'agriturismo fra poco, Francesca da Varese. Ah sì, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Volevo dire, finito il periodo dell'ossessione per Saviano, sì, adesso è il momento dell'ossessione per Ingroia, per lei. Tutti i mostri normalmente possono parlare, ma Ingroia no. Ma veramente Ingroia è ospite anche qui, spesso, non si preoccupi. Allora, lei che è il garantista. Ma io non ho detto nulla su Ingroia, non ho detto niente su Ingroia, no, nulla. Sta chiedendo nulla a cani e porci ogni sera da mesi. Ma da quello mesi, è il mio mestiere, è il mio mestiere chiedere delle cose, scusi. Ma che rompiballe, veramente. Lo so, esatto. Allora, anzi, anche una cosa, volevo dire che Ingroia. La frase incriminata di Ingroia per gli amanti del genere è questa, innanzitutto. Un attimo, Francesca. Un attimo, la frase incriminata di Ingroia, cambiare le forze politiche. Tocca un po' a voi non essere più soltanto tifosi e spettatori, essere, come dire, protagonisti del proprio futuro. Dovete cambiare la classe dirigente, dovete cambiare questo ceto politico. Beh, cambiare questo ceto politico, cambiare la classe dirigente. Indicazioni abbastanza precise, fare tabula rasa, diciamo, di questa classe dirigente, cambiare ceto politico. Ma come no? Ma voglio dire, io non sto dicendo uno scandalo. Sto dicendo, questo ha detto però, non è che ha parlato, come dice lui, di antropologia, che ha detto, la mia era un'analisi antropologica della mafia. Ha detto, bisogna cambiare questo ceto politico. Comunque, molto chiaro. Cioè, non ha dato nessuna indicazione di voto. Ma no, ma certo che no, ma nessuno l'ha mai detto. Nessuno l'ha mai detto, su, ecco, dai. Ma quando si dimostrerà che Ingroia, a causa delle sue idee politiche, è talmente fazioso che fa condannare qualcuno, quando lo si dimostrerà, allora sì, dovrà ma stare zitto. C'è anche la questione dell'apparenza, c'è anche la questione dell'apparenza. Ma perché si commette il solito errore? Ingroia non fa condannare nessuno, Ingroia chiede. Vabbè, d'accordo, ma quello non c'entra niente. No, allora, Ingroia è un partigiano della Costituzione, come ha ricordato lui. Partigiano della Costituzione sono tutte slogan. L'ultimissima cosa, Ingroia sarà a Varese domenica 16 alla festa della Resistenza. Bene, per auguri, un dibattito. Tanti tantissimi auguri. Aspetta un secondo, ancora un'ultimissima cosa. Dica. Volevo ricordare che oggi è l'11 settembre, non quello delle Torri Gemelle, quello del colpo di Stato in Cile. E chi se ne frega. Punto. Cecilia dalla provincia di Livorno, buonasera. Un po' di sinistra l'ascoltatrice. Eccomi, ciao. Bada. Cile. Allora siete Cile. Belli, simpatici, sempre aggiornati. Mettiamo gli intimi mani. L'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico. E mi sta bene, però basta parlare sempre di gay. Abbiamo tanti. Ma veramente è una vita che non ne parlavamo. Scusi, Cecilia, abbi pazienza. Ma se uno dei candidati. Non è una vita, io la seguo tutti i giorni. Se uno dei candidati. Se uno dei candidati alla guida del centro-sinistra, cioè Bendola, dice che si vuole sposare nella sua terra perché in Italia non ci sono diritti, è come nel Medioevo. Ma che cosa vuole da me? Colpa mia? Cecilia? Pronto? Sì, pronto? L'agriturismo Casale Mocatorion? Mocatorion, mi dica. Sì, buonasera, qui Radio 24. Volevamo sapere... C'è una stanza vicina a quella del professor Sgarbi. Ma Sgarbi non c'è più, la signora Zago volevamo, la signora Marcella Zago. Sono io la signora Marcella Zago. Oh, buonasera signora, come sta? Io bene, lei? Bene, non c'è male. Lei, intanto condoglianze per la visita di Sgarbi. Sì, condoglianze per la visita del dottor Sgarbi. La camera vicino a quella di Sgarbi, ho sentito. Sì, dice, sì, ha detto il mio, socio. La camera di Sgarbi è una camera che... Perché ha... proprio la camera di Sgarbi? Ma proprio ma perché Sgarbi mica è ancora là? No, è partito. Però, sto ripetere di dormire dove ha dormito Sgarbi. Ormai potete mettere la targa, qui si è spogliato Sgarbi, insomma, no? Nell'agriturismo. Si è spogliato Sgarbi. Comunque, grande pubblicità, per Mazzarone. Stai zitto un attimo, per Mazzarone. Allora, volevo capire una cosa, Zago, ma davvero si è spogliato, è rimasto con le mutande? Perché, ma lei chi è? In quale radio chiama? Radio 24, Radio 24 La Zanzara. Radio 24. Sì. Mi dica. Allora... Io in questo momento non posso parlare perché siamo al lavoro. Se chiamate domani sì, vi posso dire qualcosa. Sì. No, ma era per sapere se davvero si era spogliato, cioè, pochi istanti, giusto per sapere se davvero si era spogliato col insomma, si vedeva tutto, come dire? Io l'ho detto in televisione quello che si vedeva. Quello che ho detto è avevo un costume trasparente. Sì. Che quando si è buttato in piscina si vedeva tutto. Si è visto che era nudo. Si è visto che era nudo. E lei ha protestato o hanno protestato i suoi clienti? Sì, 5 volte. Sono andata 5 volte a andare. Anche lei è andata 5 volte da lui a dire basta. A dirgli sì, di coprirsi. Andare. E non si è coperto. E non si è coperto. Ma come lo definisce Sgarbi? Un cafone? No, intanto un grandissimo maleducato, perché lui ha preso per cafone le persone che erano qua e per caproni. Quando le persone che erano qua non erano né caproni e né cafone, perché l'unico cafone della situazione è stato lui. E poi si dice Mazzarrone, no Mattarone. No, Mazzarrone ha detto. Mazzarrone al signor Sgarbi ha dato anche un premio. Sì. Cioè lei molto importante, ha disprezzato. Sicuramente non meritava. Ma perché ha voluto fare questa cosa qua? Buttarsi in piscina con le... Ma questo non lo so, guardi, dovremmo domandarlo a lui. Ma quando lei è andata là a dire ricopriti perché si vede tutto, come ha risposto lui? Che era secondo lui decente vestito. Invece... Però 90 persone non credevano che sia decente, perché sicuramente era lui l'indecente della situazione, il caprone. Perché ha preso per ignoranti a persone che lavorano, come ho lavorato tutto il giorno, e dovevo stare dietro a un bambino che dovevamo dire di coprirsi. Se per lui è una cosa intelligente che ha fatto, o un po' di pubblicità, ne mancava e lui se l'è fatta. Beh, l'ha fatta anche indirettamente. 4 ore di show. Scusi un attimo. Non è riuscita bene, però. Scusi un attimo, ma davvero si vedeva tutto? C'era una cosa veramente oscena e inguardabile? C'erano lei bambini. Lei si mette una mutanda bianca ed esce dalla piscina? Non lo so, non l'ho mai fatto in vita mia, scusi. Lo provi, guardi, si vede tutto. E poi con una patta che si sedeva vicino ai tavoli delle persone e che si apriva, secondo lei? Beh, no, c'erano bambini? Sì. bambini e donne, non ha avuto neanche questo rispetto, né dei bambini e neanche delle donne. No, ma si vedeva... L'uomo credo che ne dovrebbe avere poco. Ma quanta roba si, cioè, si vedeva tanta... Voglio dire, vabbè, adesso non entrare nel dettaglio, scusa, si vedeva. No, vabbè, ma non è una questione... si vedeva, era un boxing. Beh, anche quello conta, però, si perché se magari... di più, che se ne vedeva di meno, credo che non ha... No, certo, no, certo. Però dico, signora... Ma la signora... gente, che diceva la gente? Cioè, quelli, quelle persone là, i clienti, diciamo, della, dell'agriturismo, che dicevano? Pronto? Erano abbastanza irritati. Eh beh, immagino, erano irritati da questo show, pure erano divertiti. Ora, scusate, ma io devo andare al mio lavoro. Grazie signora, per carità, per carità, ma grazie. Figuri. Grazie, buona serata, buona serata, condoglianze ancora per questa cosa. Però in realtà potrebbe essere anche una grande pubblicità per questo agriturismo in provincia di Catania, Mazzarroni. Tu capisci che mi hai irriso, ma non è una domanda da poco sapere quanta roba si vedeva, perché se per la vecchia questione lì, per la vecchia questione. Non è una questione da rita niente, perché tu hai detto... Beh, no, guarda, io voglio conto. Interpellare su questo un grande esperto, sulle ti questioni. Voglio... Beh, ti un voglio... grandissimo esperto, non nostro amico, dove può arrivare nostro la sua amico, mente sulla, diabolica. No, sulla questione che si è dibattuta qui alla Zanzara negli ultimi giorni, cioè dire, Sgarbi... Ce la fa sì o no? Questione epocale, ormai epocale. Qualcuno ci ha ricordato una vecchia conoscenza, un vecchio incontro di anni fa tra Sgarbi e Rocco Siffredi. Buonasera. Buonasera. Ciao onorevole, Rocco, buonasera. Come stai? Come va? Come va? Sento in forma? Onorevole, come sta? Oh, molto Siffredi. Bene, molto bene. Professore, allora, che incontro è stato questo con Sgarbi? Ma Sgarbi è un grande, dai. Un no, grande. Quello non c'è dubbio. Io lo chiamo... Mister Barzotman, Barzotman. Ma come Barzotman? Ma noi lo sappiamo perché? Perché una volta io ero in discoteca, eravamo ospiti insieme, e lui mi ricordo che prese il microfono e cominciò, no, Siffredi, lo acclamate, però ricordatevi, sappiate che lui è un operaio del sesso, per la quale io un po' lo condivido questa sua. Sì. Ma invece io mi diverto. Appena detto invece io mi diverto, l'ho bloccato, ho preso il microfono, ho detto: man, vuoi che parlo? Io sono amico delle pornostar con la quale tu ti diverti a uscire. Sì. Ha ripreso il microfono, ha detto: non fare lo stronzo, non fare lo stronzo. Vuoi capire? Cioè, ma allora qual è il segreto? Cioè, il segreto è Barzotman. Io non lo so perché, ti dico la verità, io gli ho chiesto a lui una volta questa cosa qua, si è messo a ridere, mi ha detto vaffanculo, quindi bisognerebbe chiederlo a lui. Io però so perché lui è stato un grande amante della Petra Scharbak. Ma amante sul serio o amante per finta? Petra mi diceva che riusciva a venire con l'uccello mezzo moscio, però questo era un detto di Petra, io non lo so, lei me l'ha detto e io gli ho detto: Sgarbi, non cercare di fottermi perché io ti sputtano. Barzotman, torniamo subito. Siamo Barzotman, però cioè, non lo so, poi magari è un grande amatore. Infatti. Allora, può anche amare essendo un po' barzotto. Insomma. Dai. Nel nostro settore non va tanto bene perché però, se barzotto si vede e quindi non funge. Anche se uno può essere aiutato anche lì, si può aiutare, però non troppo. Ma oggi, non... Sì, oggi, guarda, io lo devo sentire perché se c'è ancora quel piccolo gli devo dire che esistono oramai prodotti fortissimi per eliminare quel parassita. Continua la saga, la grande saga Sgarbi Toscani, ormai si arricchisce anche di nuovi personaggi che entrano. Ha iniziato Toscani in questo modo. Sgarbi poverino, lui è finito tanto tempo. Beh, lui è proprio, come ho detto, coitus interruptus, non riesce proprio, non ci arriva. Secondo me non me ne frega niente se Sgarbi in potenza, no, l'ultima cosa è la potenza di Sgarbi. Come vedete, ultimamente la sua potenza non è neanche più intelligente, poverino, sta perdendo anche quella. La replica di Sgarbi. Certamente uno che cocaina ne ha presa e droga ne prende tuttora è Oliviero Toscani, non c'è alcun dubbio su questo. E non c'è dubbio su questo, l'ha presa e la continua a prendere. E uno che gliela dà certamente è Gian Marinaro. Controreplica di Toscani, ho le prove che è impotente. Comunque, per dire una cosa così, uno deve avere delle prove, delle testimonianze. Io ho delle testimonianze che Sgarbi è impotente invece. Delle signore che dicono che Sgarbi è impotente. No, non posso far nomi, scusate, questo è chiaro, non posso far. È un uomo digitale, palpeggia. lui palpeggia, si attacca, è come un polipino, sta lì con le mani, accarezza. No, proprio non ce la fa, lui deve palpeggiare, lui è un digitale. Digitale, è un digitale. Sei palpeggia, lui deve sempre toccare, come un bambino, no? Ormai un caso internazionale, interviene anche una pornostar amica di Sgarbi, Vittoria Risi, più porno attore di me. Sentiamo. No, guarda, assolutamente posso affermare che invece Vittorio è più pornostar e pornoattore di me, perché fa una vita che è una cosa allucinante, anche sessuale soprattutto, e lo posso confermare dal momento che lo frequento anche. Poi oggi altro scontro con Barbacetto, il giornalista del Fatto, che gli ha rimproverato quello che ha detto Toscani. Insomma, il caso si allarga. Rocco? Ascolto. Allora, ti dico la verità, di tutti quelli che ho sentito, veramente Toscani è simpatico, Sgarbi mi piace un po' di più, non so perché, ma mi sta più simpatico. Ma Vittoria ha detto la verità, lo sai chi ha detto la verità? Su che cosa? Su Sgarbi, che è più pornostar di lei, perché lei è veramente negata. In quel senso. Vittoria Risi è negata. Vabbè, infatti, adesso negata. È negata, lascia stare, credimi, se mi chiedi un parere su una pornostar mi devi credere. Quindi se Vittoria dice che Sgarbi è più brava di lei, già basta. L'uccello non serve, il resto lo fa la testa. Parenzo, tu hai mai visto un film? Parenzo, hai mai visto un film con la signora Vittoria Risi? Uno solo. Dormenti, ma no, ma io sono cresciuto con una cultura cinematografica. Sì, ma non con Vittoria Risi, dai, no, su. No, nei momenti di debolezza, magari in passato. Ma che debolezza? Nei momenti di forza, no? Di debolezza. Può essere, no, nei momenti. Comunque, lo sai che Rocco Siffredi sta facendo un sacco di cose. Vuole fare addirittura un reality per scegliere il suo erede. Poi ha parlato di futuri film con la Minetti. Ma questo... potresti metterti in coda, diciamo così. Io in coda, ma che sei matto? Io secondo me saresti il grande. Un degno erede. Ma quando mai? Ma ho 46 anni, signore. Ma stai scherzando? Cioè. No, 46 anni ce n'hai due meno di me. Ma di che stai? Beh, ho capito, amica, ho il pregresso tuo, però scusami un attimo. Cioè, non è che posso iniziare. Amiche della Zanzara, amiche della Zanzara, grande sondaggio. Telefonate, ma il vai. Signor Cruciani, secondo grandi sondaggi, secondo voi può essere il degno erede senior del signor Siffredi? Ma che queste sono le stupidaggini che dici tu. Senta, ma senti Rocco, ma io voglio capire una cosa, ma chi è il Siffredi della politica? Il number one, dai, è sempre il solito, sempre. Per me resta sempre lui. Ma io aspetto, guarda, la Minetti per me è un gancio per arrivare a lui, ricordami, perché la Minetti viene da lui, è stata formata da lui. Non c'è dubbio. E quindi lei sa come si deve fare. Come va fatto un film? Schicchi ha ragione, Schicchi ha fatto bene. Però ha smentito, lei ha annunciato querela. No, ma per l'amor di Dio, lei è stata, secondo me non è stata intelligente ad arrabbiarsi, perché Schicchi è normale che provoca, ma però ha provocato giusto, ha provocato in piedi. Quando tu dici voglio fare un film con la Minetti, in realtà è per arrivare a Berlusconi, l'obiettivo 100%, è quello. 100%. Quanto farebbe? Guarda, ti do uno scoop. Mi hanno appena contattato la metà, no, ma tre oggettine per fare un film reale con loro, Bunga Bunga. Io ho detto sì, ma se non c'è il presidente che film facciamo? Quindi ho detto no, non è proprio. Però mi hanno contattato questa settimana per fare questo film, quindi c'è in aria un po'. Un film con protagoniste le oggettine, diciamo, no? Le vere, beh, certo. Ma non tutte. Beh, no, tutte sarebbe difficile, perché sono una ventina, è difficile fare... Cioè, già sarebbe più interessante, però. Però ti hanno contattato in tre, ma dicene una, no? Non si può dire. No, preferisco di no, perché dai, non... poi alla fine ho anche detto, insomma, che la cosa non era molto interessante, perché c'è tutto un problema legato al fatto che a me non piace poi speculare lì su, mi piace scherzare, ma non speculare. Però se ci fosse non ho amato per niente il film fatto con quella povera Sara Tommasi, quindi voglio dire, ecco, tutte queste cose qua per me si fanno per passione, e quindi se non c'è la passione, no. Il presidente ha la passione. Ma come l'hai giudicata quella roba lì, un'operazione vergognosa, come l'hai giudicata? Molto vergognosa, vergognosa a dir poco. A me dispiace che lei abbia fatto quella fine, perché poverina sull'isola era addirittura quella che mi piaceva anche più naturale, più umana, più simpatica. Adesso è diventata un'altra persona. Secondo me ha ragione chi dice che se qualcuno c'è dietro di lei dovrebbe solo aiutarla. Tutto ma qual è il suo problema? Droga, psicofarmaci? Ammazza. Secondo me c'è un mix di quelli che poverina bestiale. Va veramente si è aiutata. Per bestiale. Cui chi sfrutta questa situazione, ma tu li conosci quelli che hanno... dovrebbe cadere l'uccello per terra, guarda. Ma tu li conosci quelli che hanno e sfruttato? Purtroppo sì, sono stato anche contattato. Per rifare, pensa tu, il duo alla quale ho detto, cioè, non vi permettete neanche di chiamare. Ah, ti hanno chiesto di fare il secondo film? Che mi avrebbero tagliato, sì, ho detto, ma non vi fa schifo solamente l'idea. Lì, cioè, ti parlano di crisi, capito? Con la crisi e mettere in mezzo delle cose del genere. Ma quanto ci hanno guadagnato con quell'operazione, secondo te? Ci hanno guadagnato? Non lo so, sì, ci hanno guadagnato per forza, perché hanno fatto un'operazione mediatica anche allegata al DVD uscito in edicola, quindi voglio dire, hanno fatto una distribuzione molto grande. Purtroppo, ecco, c'è gente che pur di vedere un VIP che fa sesso, anche se il VIP è imbalsamato è drogata, non è lei, sta facendo qualcosa di totalmente antierotico, ecco, la gente non si questo voyeurismo un po' sfregato. Vabbè, cioè, però tu pure era, molto più, era molto più carino il film con la Belen, se vogliamo, perché se non altro lì era consenziente. Vabbè, ma quello era, non era manco un film, era una sorta di cosa. Sì, un giochino. Senti, ma chi è che guardando, per esempio, adesso si parla molto del grande centro, ma tu Rocco Siffredi per chi vota? Diciamola tutta. Sì. No, ma io non ho mai votato, perché dovrei votare a 48 anni, anche se è sbagliato non votare, non è il messaggio più bello, però io sono sempre stato fuori, cioè ti dico la verità, a 16 anni sono partito via e sono rientrato forse per qualche anno, uno o due anni, poi sono andato a Budapest, quindi non ho mai votato e non mi sono mai interessato alla politica. Ecco, ma guardando in faccia i nostri politici, secondo te chi è un grande macio a letto? Il linguaggio che userebbe il signor... Ma ci ho letto di politici. A parte numero uno, a parte number one. Ecco, non ne vedo tanti perché secondo Casini, me la politica... Casini, che sembra il belloccio della politica, il signor Casini. Ma non lo so, c'è mia moglie che mi suggerisce cosa? Chi? Ma chi è che ti fa mosciare il cazzo? Cioè, no. La politica. Dice mia moglie che ha detto la politica fa mosciare il cazzo. Ho capito, quello effettivamente. Ma guarda, tra i personaggi politici che penso uno che gli dia forze, ma non so, sarà pure la sua temperatura sempre alta, così dietro un po'... è vicino ad un po' abruzzese, lo vedo un po' abruzzese perché è lì polisano. Più o meno di Vasto, delle parti tue, Ortona. Lui non mi sembra che mi spiega molto, lui mi sembra uno di quelli, un po' alla ministro che lui odia tanto, al presidente nostro. Ah, là, è così, ti dice uno da quel punto di vista, lo vedi, no? Di Pietro, protagonista di un porno film, sarebbe straordinario, signor Di Pietro, Secondo me lui è uno di quelli a cui, secondo me, fa parte di quella generazione dove piace molto, anche un po' il vintage gli piace lui. Il vintage, queste cose qua. Però Di Pietro a letto deve essere, no? Te lo immagini, uno di quei protagonisti di quei film porno, un po' pelati, un po' becchi con la pancia, no? Ci sono nei film questi qua, no? Ci sono perché vuoi non vuoi rappresentano la realtà. Quella realtà, sì, questi persone bellissime, donne bellissime, anche abbastanza filmate in maniera un po' velata, così tutto un po' soft, alla fine non ha dato nessuno. Quindi secondo me anche ecco tutta questa storia. Il vero ci vuole. Dunque, dopo la Minetti vorrei Di Pietro protagonista di un film porno, diciamola tutta. No, ma Di Pietro io lo vedo più, ecco, perché l'unica cosa che lì rapproccio Di Pietro che è sempre incazzato, secondo me chiava poco, però vabbè, sempre arrabbiato. Sempre. Dovrebbe un po' più, se io capisco che siamo in una situazione di però io ho imparato anche da mia moglie che bisogna prima un attimo riflettere, poi magari invece lui subito, come gli dà la telecamera, cazzo, davanti al microfono comincia a sparare a 10.000. Va bene Rocco, ciao, a presto. No, ci baci la moglie. La moglie, che vuoi? Tua moglie, che vuoi? Che vuoi? La moglie di Rocco. Perché vuoi? Perché vuoi? Saluta, vieni Rosa. Salutino, che simpatico, sono signora... i più reali in Italia, la radio, veri. Quelli veri, la televisione è tutta finta. Dai. Pronto, buonasera. Come si fa a essere la moglie di Rocco Siffredi? Che fatica è essere la moglie di Rocco Siffredi? fatica, no, non è fatica. Ma è tornato a essere, è rimasto un po' fedele oppure ha ancora i suoi periodi di follia in cui esce e fa di tutto? Non mi spieghi bene questa cosa. No, no, fedele. Fa tre cose nel film, quelle che vuole, li sfoga. E poi... Torna a casa e bravo. Dunque ha passato il periodo, quello che usciva, faceva l'inferno. Quando non faceva film, infatti, quando torna subito. Torna subito, però è una fatica tremenda. È una fatica tremenda. Sono soddisfatta, signora, la sento felice, soddisfatta. Beh, deve essere una fatica pazzesca essere la moglie di Rocco Siffredi, però lei ce l'ha fatta, cioè ho resistito. Ormai quasi 20 anni che ce l'ha fatta. Ho resistito come moglie di Rocco Siffredi, bisogna fare una sorta di corona, una sorta di, no, viene dovrebbe essere santificata lei. Andrebbe forse candidata in qualche lista. Andrebbe candidata, le piacerebbe fare politica, signora Siffredi? Io no, grazie. No, grazie. Va bene, la ringrazio. Bene, l'abbraccio. Grazie per i politici. La ringrazio molto. Mi stia bene, mi protegga quell'uomo. Protegga quell'uomo da tutte le intemperie della vita, da quello che c'è fuori. Lo protegga, infatti, non lo faccia uscire troppo, perché quello gli piglia la botta da matto e fa l'inferno di nuovo. Ecco. Grazie, traffico. Vi saluto, grazie. Ciao, a voi. Ciao, traffico. Ciao. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate, soffri di alitosi? Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Previenila con una tecnica non invasiva biologicamente guidata e curala con il laser grazie ad Excellence Dental Network. Prenota una visita nella sede più vicina a te all'800 090 106 o su excellencedentalnetwork.com. Non perdere tempo, salva i tuoi denti. 800 090 106. Strade in diretta. Buonasera, alle 20:47 minuti, al momento l'unica segnalazione riguarda l'Autosole, dove ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente tra la diramazione Capo di Chino e il nodo di Acerra a Fragola verso Roma. Lavori notturni sulla 14 Adriatica, dalle 22 alle 5 non saranno percorribili il tratto Riccione Cattolica verso Ancona e tratto Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Proseguono i lavori anche sulla 9, Lainate Como Chiasso, l'autostrada resterà chiusa questa notte in direzione di Lainate, tratturate Saronno dalle 22 alle 6 di domani. Ed è tutto, Strade in diretta, torna tra circa un'ora. La Zanzara. Non me moleste moschito. Siamo qui, Parenzo, sei ancora vivo? Sì, dove hai parlato con la moglie di Rocco, sì. Sì, si parte, che ha una voce anche bella squillante, si vede. Pasquale D'Arezzo, buonasera. Funzionano le cose. Buonasera. Dica. Buonasera. Quante cavolate ha detto oggi? Cioè, tutte. Chi? Ehi. Io? Boh, tante, sì, probabilmente tante. Non lo so, non me ne ricordo più. Sì, passi dai gay. Vabbè, vada al sodo, su, Pasquale. Lei sta dicendo che gli operai non devono manifestare quando prendono. No, io non ho detto che non devono manifestare, possono fare quello che vogliono. Non mi piacciono le chiassate a me di solito, perché non risolvono nulla, ma va benissimo. No. Posso dire che una chiassata, o occupare i traghetti, manifestare di fronte a Palazzo Chigi, magari aggredire pure il signor Fassina? Posso dire che è una chiassata che non risolve nulla, sì o no? Ma perché ci sono tante aziende in Italia che falliscono ogni giorno, tante piccole aziende, e nessuno dice niente. Questa azienda che è in attivo la fanno fallire, non si sa perché. No, è in attivo in Italia, non è in passivo. Allora puoi sapere il motivo perché la voglio far fallire? Non dovrebbe dire anche passera, visto che ha detto che nessuno che la vuole, ce n'era quattro che la volevano. Perché chi perde il lavoro? Lo devo sapere dopo, che a radio private, così si devono sapere le cose. Cioè, è una vergogna. Io chi spero perde che il lavoro sia al 70%. E Grillo che vengono 70% loro due. Secondo lei la colpa? Secondo lei di chi è la colpa di questa situazione dell'Alcoa? No, vorrei capire. Secondo lei di chi è la colpa? Ma non è solo della politica, qualche volta l'economia, cioè ci sono certi prodotti che prima vendevano e poi non vendevano, è così, cioè, no, ma lo capisci che, perché non vogliamo dire una cosa, lo capisci che se gli tutti i soldi che sono stati dati in termini di aiuti di Stato all'azienda fossero stati dati a quei lavoratori, ogni lavoratore avrebbe ricevuto in media 80-90 euro. Ma che c'entra, scusa, non ho capito. Invece quei soldi c'entra moltissimo. se io fossi un lavoratore dell'Alcoa sarei incazzato nero per il fatto che hanno quell'azienda lì. Questa è una vergogna tutta italiana, ricordiamo. Io, sì, ma certo, la colpa ha ricevuto gli aiuti di Stato. Sì. Quegli aiuti alla fine non sono serviti a nulla perché l'impresa va come va. Sì. E i lavoratori se la sono presa nel cesto. Allora, se quei soldi fossero direttamente ai lavoratori... Ma non è che si possono dare i soldi ai lavoratori così brevi mano? Ma di che parli? Ma è evidente che... si sono buttati dei soldi che fossero dati direttamente a loro. Vabbè. Ogni lavoratore in media avrebbe ricevuto dagli hai detto la solita cosa populista, benissimo. No, occupate i traghetti, fatevi sentire. Come? Noi siamo con voi. Ma perché non è vero, tu sei con loro. Ha diritto di incazzarsi. Chi perde il lavoro ha il diritto di incazzarsi. Va bene, di grazie. Mani, non di Francesco da Roma, buonasera. Francesco da Roma. Va bene, Francesco da Roma. Hai il diritto. Buonasera a lei. Sì, dica. Io sono un suo amante deluso e come tutti gli amanti delusi esprimo lamentele e attribuisco la colpa ad altri, in questo caso a Parenzo. No, Parenzo non c'è che c'entra. No, perché dice cazzate, dice la sua, quello fa benissimo, è il motivo per cui la seguiamo sempre con piacere. Ma l'intervista a Tassone è un suo ultimo genere un po' diverso rispetto al passato, in cui deridete chi la pensa in modo un po' strano. E chi sarebbe? Questo... Chi deridiamo? Tassone, che sugli omosessuali ha una posizione diversa. Ma non abbiamo deriso nessuno, non abbiamo deriso nessuno sugli omosessuali, Tassone. Quando cerca di fargli dire che sono malati, eccetera, lo sta un po'. Vabbè, ma questa è una mia, come dire, sono domande che faccio per capire se una persona la pensa in un certo modo, qual è il problema? Senza però alla fine consentirgli libertà nell'espressione, perché quello si spaurisce, si spaventa, ci rifletta, perché su questi che hanno posizione minoritaria bisogna stare attenti. Va bene, Francesco, grazie. Se non lei non li fa parlare. Ma no, ma non è che non lo faccio parlare, uno può parlare quanto vuole. Fabio da Milano, buonasera Fabio. Sì, buonasera, lei sì. A Parenzo. Vada. Innanzitutto grazie perché da quando mi avete fatto sentire il presidente della regione della provincia di Napoli, veramente ogni sera sono risate a crepapelle, veramente. Ma chi? Quello il solito di non scordiamocelo mai. World Urban Forum. È quello fantastico. Di World Urban Forum, no? Veramente è fantastico, cioè io a volte mi capita di ripensarci quando sono al lavoro e mi metto a ridere come un pirla da solo. Ascolti, volevo solamente intervenire sull'intervista prima a Tassone, ma una cosa che non ho capito, quando parla di bacio profondo, cosa intende? Che si devono attorcigliare le lingue, che... Ma che ne so, Fabio, sono tutte cose assurde, per cui a me lo dice. Cioè, io sono omosessuale, no? A me delle stronzate che dicono queste persone neanche mi interessa, però volevo appunto capire il fatto se vede uomo e donna, uomo e uomo. Vabbè, uomo e donna lo dice dopo per pararsi il sedere parlare, dalle critiche. Carità. Ma se li vede baciarsi profondamente, non lo so, se invece li vede appoggiare le labbra, magari li guarda anche con ammirazione. Non ha mai baciato qualcuno in pubblico, può darsi, ma non è un problema mio, è un problema suo. Secondo lui dovremmo rinchiuderci, per dire, adesso parlo seriamente, in riserve, dovremmo sparire dalla faccia della terra. Anche il fatto, scusi, solo un'ultima osservazione, quando dicono ma io di gay ne conosco tanti amici gay, sono tutti molto simpatici e sensibili, ma queste sono tutte stronzate secondo me, cioè, ma mi sembra talmente sciocco dire questa cosa, ci saranno gay sensibili e gay profondamente stronzi anche, voglio dire, io ne conosco, quindi cos'è questo cliché del gay per forza sensibile, modaiolo, cioè sono proprio stronzate, ecco, mi perdoni se ribadisco. Assolutamente, grazie Fabio, andiamo a Roma, Ernesto, buonasera. Buonasera Cruciani, velocemente perché siamo vada, in chiusura. Vada. Pochi secondi, questi capelli alla Robespierre, Cruciani, l'ho vista oggi sulla 7, ma che dobbiamo, mi ha fatto venire in mente con quelli capelli alla Robespierre e in merito anche all'argomento che ha trattato con l'intervista della... Ma che Robespierre, ma quale Robespierre? Sei capelli alla Robespierre. Ma li sono pure tagliati. Ma dai, forza, meno male che sei tagliato. Senta, no, volevo dire, a proposito di Robespierre, chi è questo, che brevemente, secondo me, sarà decapitata, ghigliottinata tutta la classe politica italiana. Vedremo. Si crea, sarà una rivoluzione, un 14 luglio italiano la prossima volta che si va a votare, perché la gente è schifata di questi papponi di Stato, di questi maniaci che si fottono 20.000 euro al mese pensando solo ai cavoli loro e rompono i cocomeri tutti i giorni. Va bene, Ernesto, grazie. Hanno proprio rotto le palpebre. Va bene, grazie. Davide da Brescia, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Cruciani, questo è dottor Vada, vada, vada. Attenzione. Ma che è vi ammazzo? Chi è vi ammazzo? Chi è no, che sta è dicendo? Alex, no, scusi, deficiente. Chi è? Chi è? Un amico mio. Ho capito, ma... Se non era un amico, figurati. Allora? Appunto. Dottor Barretto, buonasera, rapidi, rapidi. Buona pensione al senatore di prima. Sì. Deputato, sì. Comunque. Deputato, comunque. Allora? Ma sa di che... sì, sono qua, sono là, ma non è qua lei, cioè non è che possiamo aspettarla tre ore, Davide. Ha ragione, me ne sto andando, a risentirci a domani sera 18:30, ciao.